quinto su 36.000 metri quadri. Incredibile! 307 voli giornalieri internazionali e internazionali. E i bambini si annoiano. No! Fai volare la fantasia! Falli visitare l'aereo! Sì! Porti, perché un sorriso per il tuo bambino non ha prezzo! Live and direct from Radio ZM, sito in Milano Sud, sito finalmente in zona gialla. Al mio fianco, al microfono 1, Gigi Proiettili. Bella a tutti, bella a tutte. Alla mia sinistra, alla mia dietro sinistra, sul divanetto di Zam, la arcinota mamma del lab, la Buzzi, e che ieri Chiara. E al microfono 1, me medesimo, Nino Stereo, e che Nino il Papu, direttamente dalla provincia di Milano, pronti per un'altra roboante puntata. Stiamo muovendo i primi passi, ragazzi, perché il nostro programma radiofonico ha appena compiuto un anno fa. Avevamo già fatto le prime due puntate, andatevele a ripescare, tra l'altro su un sito di Zam veramente super acchittato e figo. Oggi facciamo una puntata un po' straordinaria e un po' malinconica, perché purtroppo è dedicata purtroppo a un MC che ci ha salutati alla fine del 2020. Parliamo di MF Doom, uno dei più grandi artisti e geni sicuramente dell'hip hop. Quindi faremo un bel viaggio nella sua lunga e articolata discografia. Come al solito partiamo con una coppia di tracce italiane. Abbiamo scelto due MC che sicuramente amano molto MF Doom. Partiamo col primo singolo, una collaborazione classica che si rinnova, produzione Mr. Phil, rap di Danno del Colle del Fomento. La traccia si chiama La Mette. Mr. Phil. Sei, il mattino all'oro in bocca, il mio challe la mette, sempre troppa caffeina, sempre troppe sigarette, sempre questo cuore a mille che batte, un fiato corto che mette alle strette, quest'ansia maledetta che m'affanna e me fa fette, cercami fra i cani, nascosto dietro gli angoli, parlo con i fantasmi, gli acrobati e i funamboli, salto a piedi pari, scavalco i tuoi preamboli, mo, chiamami Tom Waits, dalle maniche i coriandoli. Corro dietro al tempo, ma il tempo non m'aspetta. Cane pazzo, questa vita è maledetta. Un'altra mezza sigaretta e i miei polmoni che mi sorridono. Metto una nuova maschera in faccia, ma ancora di me non si fidano. Questi pensieri mi uccidono. Nemico giurato, paranoie che irrigano, avvelenano il prato. Poi dicano tutto quello che vogliono. A me resta l'orgoglio e l'idea nella testa che poi non ce cogliono, sparano a salve, pagine bianche, troppi che non sanno che da quella parte è tutta una parte, troppi che ci stanno, è tutto così freddo, è tutto così vuoto, è tutto così colorato e pare sempre un gioco, ma al mattino all'oro in bocca il mio challe la mette, sempre troppa caffeina, sempre troppe sigarette, sempre questo cuore a mille che batte, un fiato corto che mette alle strette, quest'ansia maledetta che m'affanna e me fa fette, cercami fra i cani, parlami con le mani, dimmi come sarò domani, se ci sarà un domani, cercami fra i cani, parlami con le mani, dimmi come sarà domani, già se ci sarà un domani. 2020, Mr. Phil, Danno, Jedi Master, dallo Zoo di Roma. Ah, yeah, una bella collaborazione, un bel viaggione, sempre la solita scrittura distopica del Danno. Filosissimo. Che su una produzione, diciamolo pure, della Madonna di Mr. Phil. Andiamo con un Invece un altro prodotto, un'altra traccia dal gusto più classico, però effettivamente da persone che sicuramente amano il nostro buon MF Doom, che sicuramente è sempre stato un amante dell'hip hop classico. La produzione in questo caso è di Last B-Boy e al rap una nostra vecchia conoscenza, un nostro caro amico Esa, a.k.a. El Presidente, nostro che padre spirituale, nostro padre spirituale, un po' il nostro Obi-Wan Kenobi. E praticamente appunto questa traccia, senza dare adito a incomprensioni, si chiama Classico. Yo. Pinocchio nel ventre della balena, suoneremo 100 storie serie alla gente nelle balere. Vento di rivoluzione, pantere nere, cliente le scelte, il nuovo stile italico, suono internazionale. Lo bombano anche al di là del valico, non sei carico, me ne rammarico, lo spingo classico. Placca il succo gastrico, disastri dall'epoca dei nastri. Che avvolgi con la bic, raccogli i click sparsi, ti fa passare il tic, fa gasare la massive. Qual è il messaggio? Un massaggio del padiglione, auricolare, risveglia Lazzaro, torna a volare, senza tralasciare alcun particolare, ritmo elegante, elefante in un negozio di porcellane, Porsche Carrera, vecchia e nuova era, stessa maniera. Flash anche la tua parrucchiera, ti fa le trecce, Method Man, ancora detta legge, esplode il vecchio trend, schiva le schegge e raggiungici alla gen. Classico, di una bellezza che invecchia, classico, che te lo pompi in cameretta, classico, come la Salerno, classico, come fascina l'inferno, classico, che lo canti con le palle in mano, classico, fabbricato a Milano, classico, che volume non ti basta così, classico. Suonano ancora Sam, B, Juggling, doppia coppia con gli stems, nuovi mix, preziosi diamanti, trolla un'altra volta, poi chi c'ha colpa, facciamo colla per il subwoofer, entra in studio, rap judo, torna dal passato ad azzannarti, Cugio, muovelo, basso che rassoda il gluteo, gioco con gli MCs a subuteo, loopando Phil Collins, su studio, fammi lavorare o dammi il sussidio, per me è più facile da un lato, sei più agile, hai la rabbia di chi vive al margine, comunque devi scrivere le pagine, finché non saranno vive dirette, sono quattro chiacchiere, quattro birrette, quattro amici al bar che parlano di un sogno che non si spegne, stasera fumeremo grosse porre con le gemme, di essere insieme, DJ Trix, Mauri B e l'ottavo colle, un mese dopo esce il banger. Yo. Classico, di una bellezza che non invecchia, classico, che te lo pompi in cameretta, classico. E questo era Last B-Boy featuring Esa Presidente, classico. Salutiamo un nostro ascoltatore che ci ha scritto sulla chat di Radio ZM Telegram. Salutiamo Shady. Bella Shady, grande. Bella Shady, che giustamente ci suggerisce che Classic possa essere stato preso da Rakim, sicuramente, perché comunque insomma sono dei grandi fan di Rakim, e questo ci ricorda anche che gli avevamo promesso che prima o poi avremmo fatto una puntata su Rakim, non ce lo siamo dimenticati, molto presto arriverà anche la puntata su Rakim e beh, poi anche su Tupac, ma sarà una puntata sicuramente bella lunga. Ora, come nostro consueto, mettiamo la traccia forse più iconica dell'artista a cui è dedicata la puntata è dedicata al nostro caro MF Doom, e la sua traccia più iconica senza dubbio si chiama All Caps. So nasty, that is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged, he know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter, peep the slow cutter as he utter the calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain, the worst guy, spot hot tracks like spot a pair of fat asses, shots of the scotch from out the square shot glasses, and he won't stop till he got the masses, and show them what they know not through flows of hot molasses, do it like the robot to head spin to boogaloo, took a few minutes to convince the average boogaloo, it's ugly, like look at you, it's a damn shame, just remember all caps when you spell the man name. And you know it like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball, all bets off. The villain got the dice rig, and they say he accosted the man with the slice wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. E oh, all caps, perché vuol dire all caps lock, scrivere tutto maiuscolo, perché voleva che il suo nome MF Doom si scrivesse tutto maiuscolo. Sai che viaggio mi sono fatto io invece? Porca miseria, cazzo, ci sono rimasto male, che in realtà non è come me immaginavo. Io pensavo all caps nel senso di tutti i tappini degli spray, quindi scritto in tutti i modi possibili. Beh, può anche essere. Tanto, viaggio, tanto era un fan di tutte le discipline, cioè proprio uno di quelli duri e puri dell'hip hop, quindi sicuramente. Salutiamo anche Omar, salutiamo Mauri, il lab di Baronata, che a quanto pare ci stanno ascoltando. Salutiamo anche Sushi, che erano appunto tutti impazienti di ascoltare questa puntata. Grandi regà. Grande Sushi, grandi raga. Grande Omar, un abbraccione. E allora dobbiamo cominciare con un pochino di biografia. Sostanzialmente il nostro, nato Daniel Dumil, nasce a Londra nel 71 e poi si sposta a New York quando era un ragazzino, verso la fine degli anni 80. All'inizio, come dire, si approcciò all'hip hop in maniera molto più classica. Il suo nome iniziale era Zev Love X e rappava nei KMD, che sostanzialmente erano un gruppo di teenagers che facevano rap, che comunque hanno fatto dei bei dischetti molto classici, insomma, nell'impostazione di fine anni 80, primi 90. E hanno avuto vari cambi di formazione, però appunto Zev Love X e suo fratello DJ Sabrok c'erano sempre. Il loro primo album è uscito nel 1991, e poi è stato seguito da un altro nel 1993, che però in realtà non è mai uscito fino al 2000. Sostanzialmente loro sono partiti con una collaborazione con i Third Base, e poi hanno pubblicato il loro primo album, che si trovava Mr. Hood. Poi devono fare, come dire, la pubblicazione del loro secondo album, che si trova Black Bastard, ma praticamente la scomparsa prematura per un incidente d'auto di DJ Sabrok portò il gruppo allo sbando, e la stessa settimana la Elektra Records, che era la loro compagnia discografica, li licenziò pure, quindi diciamo un cumulo di sventura, e quindi poi il gruppo insomma si perse un po'. Questa è un po' una breve storia dei KMD, che comunque iniziarono col piede giusto, perché avevano già delle grandi collaborazioni. Infatti il pezzo che abbiamo deciso di proporvi dei KMD fa parte del primo album, si chiama di Mr. Hood, si chiama Nitty Gritty questa traccia, ed è featuring i Brand Nubian. Friends, X tends to grip palming, cause the calming is knowledge itself, to commence to bombing, as alarming as a beep from your beeper. What you needed was a wake up call to the sun, your sleeper. You don't wanna get woke by the wolf, does it? Good guessing, switch the pitch up, another session from the infamous Guard Squad. See these all peas in the same pargon, on and upright, getting downright nit, grip rod, hell up tight, cause I sit with new witnesses knocking at my door, preaching the law to change your life around. I figure I just showed your mom the other day uptown, give him a pound, it's the puzzle, relax, the nitwits guzzle 85 proof, that's max. God's sight for the vine as I build on an incline, quick to help another cause I know I'ma get my bill. Powers think they hard, but they're killing their own kind. Emphatically no, divine evil got him in his mind. Now you quit a case, you're in the mountains, you're a life of no skins from your girl, just a he cipher, monkey cipher. Or you can use the next plan, Vaseline, a magazine, or your loving hand. I know you know who got you living like this black man. So honey, honey, honey, with the real big tins, get right down to the real nitty gritty now. Put some clothes on that behind, and maybe brothers wouldn't think skins all the time. You wanna look lustful, but don't want them to lust. Honey's crazier than a bag of dust. So Weeby is quick to deceive me, so I had to tell Weeby. Yeah, I hear your hot shit, but y'all, I got something for those of you fronting out there, girl. Kick that. Now ain't that the pits? Another brother's boom to bits. And when the news hits, everybody catch fits. We gets mad, but still at home we sits, thinking out of the big pig, spoon to the grits. Talking 85 drive, brothers they wanna get live, but some front while I strive. See I strive, I gotta keep guard, stepping in harmony. Brothers try bombing me, the devils try timing me up. But now cipher away, I got knowledge of self. I been had it, now it's a bad habit to help. See I build with the new beings I chill with, I fill with my zigzag zip. I never live big, I never live large, I never live fat. The devil man in this land, you won't allow that. So brother man, I don't wanna bust you, but if you don't know the devil, then how can I trust you? Say yo, true indeed, I'm exploding on all the time when the devil's like this. Life's hardships, stones are placed, the one must face trips. Falls and spills and kills and cause mishaps. These are some of his traps, but I got a jewel which needs no gift wrap. So just receive, believe when shown the light. The devil gets left, the gods gotta get right to the source of a loss. Stop wearing the cross, do for self, kill that yes sir boss. And when you do, from the other you won't back. Can't you see my brother, yo, the armor leg a leg, arm supreme head. And instead of relying, why don't you start trying? You say tries to fail, I say tries in the tempest. When you stop trying, I make victory except from your cipher. The life you lead is not hype. The black man was not born to be a gutter sniper or an alley cat. You should be stepping to the rally fat, not just with dope but with the knowledge you know. So get up and go, get yourself a book of life instead of living life like a hooker. Hey, yo, needy, greedy. Una traccia perfetta da ballare, una traccia bella funky step. Ovviamente tutto ciò non può non ricordarmi quanto piaccia ballare su questi ritmi al mio amico Mauri, che saluto e che spero abbia funky steppato come un pazzo su queste note. Questo, come dicevamo appunto qui in radio, diciamo, proprio non c'entra nulla con quello che è successo dopo, però ovviamente era una produzione fatta da giovanissimi e ovviamente giustamente seguivano un po' la tendenza musicale dell'epoca. Allora, cosa succede dopo appunto lo scioglimento dei KMD? Sostanzialmente, secondo appunto le parole di MF Doom, sostanzialmente lui stesso ha vissuto come un barbone per 3 anni circa sulle panchine di Manhattan, poi si è spostato alla fine degli anni 90 ad Atlanta ed è ricomparso, sostanzialmente un'apparizione mitica, a diversi open mic indossando una maschera che ricordava la maschera di ferro del Dottor Doom dei fumetti, i fumetti Marvel. Praticamente era un nemico dei Fantastici 4 e appunto c'era questo Dr. Victor Van Doom, una cosa così, che appunto era un acerrimo nemico dei Fantastici 4. Quindi sostanzialmente lui ha impersonato questo personaggio nella vita reale, facendosi ovviamente un grande viaggio mentale e presentandosi in maniera totalmente diversa. Nel 1999 è arrivato un LP, il suo primo LP, che non è passato inosservato assolutamente, che è un po' uno dei suoi dischi simbolo, Operation Doomsday, interamente prodotto da lui come a livello di strumentali, prodotto come etichetta discografica da Fondlem, cioè una etichetta iper indipendente, iper underground, che però appunto diventò un piccolo culto nell'underground, anche perché sostanzialmente, essendo un'etichetta indipendente, non c'erano neanche molte copie da poter stampare, quindi poi molti chiesero e ottennero insomma la ristampa qualche anno fa. C'era anche un video della title track Doomsday, fatto ovviamente in maniera molto semplice, in cui appunto si presentava questo personaggio con la maschera di ferro che rappava in giro. Quindi noi abbiamo scelto una prima copia per farvi capire insomma di che cosa stiamo parlando a livello di gusto musicale, a livello di scelta delle parole, a livello di flow, a livello di tutto. La prima traccia si chiama Doomsday e la seconda si chiama Rhymes Like Dimes. I used to cop a lot, whenever cop no drop. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3-plat, came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped, then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men to the end for 2 milli. Do do do do do. fool, that's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back, came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government, Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17 up under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck a pop junk. Pop the trunk on C-Cypher Punk, leave him left scraped. God forbid, if ain't no escape, blame him left tape. Definition super villain. A killer who loved children, one who is well skilled in destruction as well as building. While Sidney Sheldon teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pipe, a holler, a rhyme, a dollar and a dime. Do a sting, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, need toothpaste. Professor Mint, monkey style nigga to death again. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On doomsday, ever since the wound till I'm back where my brother went. That's what my tumor said. Right up on my government, Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? Doomsday, ever since the womb till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like pass the peas like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples, metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen, youth, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncouth. Spitting all out the sunroof, through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife, able to drop today's math in the 48 keys. Hey, yo, of life. Yo, y'all can't cut stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right eardrum close range. The game is not only dangerous, but it's most strange. I sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash but brag about the broker time. Joker rhymes like the is you just happy to see me trick. Classical slapstick rappers need chapstick. A lot of them sound like they in a talent show. So I give them something to remember like the Alamo. Tally ho, a hot joker like Space Game. Came back for 5 year lane and stayed the same set. Electromagnetic field, it blocks all logic. Spock and G-Shock's a biological clock. When I hit it, slid it to the shitter, thought I killed a goose. Her power use was pure brittle water filter juice. Keep a pen like a fiend, keep a pipe with him. Gentleman who lent a pen to a friend who write with him. Never seen this shit again, but he's still my dunny. The only thing that come between us is krillin' money. I sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash will brag about the broker times. Better rhymes make for better songs. It matters not if you got a lot of what it takes just to get along. Surrender now, suffer serious setbacks. Got get back, connects, wet back, get stacks. Even if you got to get jet black, head to toe to get the dough. Battle for bottles of Mo or Joe. This fly flow take practice like Tybo with Billy Blanks. Oh, you're too kind, really thanks. To the corner lost forever like, oh my darling Clementine. He hold his heart when he telling rhyme. When is his time, I hope his soul go to heaven. He nasty like the old time, old number 7. You still taste it when you chase it with the Coca-Cola. Make them wish they could erase it out the Motorola. I told her, no credit, fall back. If you want what they got, then go get it, it's all gack. Only in America could you find a way to earn a healthy buck and still keep your attitude on self-destruct. I sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash but tell about the broke times. Joker rhymes like the is you just happy to see me trick. Classical slapstick rappers need chapstick. A lot of them sound like they ain't a talent show. So I give them something to remember like the Alamo. Tally ho, high joker like Space Game. Came back from 5 years lane. Stayed the same, saying electromagnetic field will block all logic. Spock and G-Shock a biological clock. When I hit it, slid it to the shitter. Thought I killed a goose. A power use was pure brittle water filter juice. Keep a pen like a fiend, keep a like with him. Gentleman who lent a pen to a friend who write with him. Never seen this shit again, but he's still my dunny. Only thing that come between us is grilling money. We sell rhymes like dimes. The one who mostly keep cash but tell about the broke times. When your heart's the night, she reflects that she owes you sweet evidence. She wants you, baby. Hey, yo. questi erano Doomsday e Rhymes Like Dimes da Operation Doomsday. Come potete appunto vedere, anzi come avete potuto sentire, il nostro non si perdeva in chiacchiere e, come dire, non faceva testi banali, ma neanche i campioni erano banali, mi piacevano parecchio, c'era un bel gusto, c'era un bel lavoro dietro, amava proprio le cose classiche. Infatti il suo commento relativamente a Operation Doomsday e soprattutto la traccia Doomsday, che poi è stato il suo manifesto, cioè anzi senza un po', è stato il suo manifesto, praticamente lui diceva che sostanzialmente in quegli anni lì, a fine anni 90, si erano perse un po' di cose relative al rap e si sta puntando forse di più sull'apparenza o su altre cose, e lui invece ha voluto di nuovo puntare il focus sulle parole, sulle rime. Quindi diciamo Doomsday voleva dire: queste sono le mie regole, le regole riguardo al rimare. E considerate che appunto l'ha ripetuto per tutto il disco e per tutti i dischi della sua carriera, quindi mica male, mica male, mica male. Infatti non a caso il soprannome di MF Doom era Your Favorite Rapper, Favorite Rapper, cioè il rapper preferito del tuo rapper preferito. E poi appunto lo vedremo, viste anche le grandi collaborazioni che ha fatto. Operation Doomsday è un disco molto bello, ovviamente, che vi consigliamo di sentire, uno dei suoi principali. Abbiamo scelto altri due estratti che si chiamano Go With The Flow e The Finest. Check this microphone before I start right quick. Microphone check 2 2 1 2 1 2. Yeah, big up all the Monster Allen massive, and beware before I triple dare you like the last kid who asked me what we don't got that you got, son. For one flow that's elementary, my dear, watch, son. Secondly, ever since I was little, not so much to riddle, least rhyme to the syllable. Keep tracks and make an A-rap deep clap with no hands. I chop these drums off, truly yours, G-rap. Actual fact, relax. In this land of lyrical lost black, I'm not the cool sleet stack, the one who might stop and talk to you. Poison to few niggas who be biting styles, I'm like pork to. Ooh, what you got to lose? Let mud fly. When I got blues, I two whole crews that's butt dry. So I ask why the stars from the set should be fucking with my eye as I pull it to the chest. A super motherfucking villain, grip the mic with an iron hand, throwing them seeds to the fire from out the frying pan. It ain't no use in trying, man. Son, stop crying, fronting like you death defying. Need to stop lying. Speak your peace. Only once you're spoken to first. Now let me hear your verse while I'm choking you with rubber fine rhymes like an editor. Throw them to my collections of skulls and spines like Predator. Fuck around. The only niggas who can hear the same sound was Jet Jaguar and James Brown. Yeah, yeah, only them. And I'm glad I took the time to write their names down just to big them up. I like to say hi, it's Sci-Fly, the odd Merlin, that's quick to whip up a script like Rod Serling. Who I own bad bitch, who used to whip the Sterling. Who see guard Tobin, never see guard Erlin. My man Grimm had his little monkey like Space Ghost. Me, myself, I got flavors that outtakes most. With numb gum, some rhymes is late toast. Back to you, MF Doom, you late show host. S to the U to the P-E-R, who chronicle these times in a 3D horror. Thriller Pono, co-starer in a real drama, who break bread with stingy kin man, Indian borrower, lone gunman who candidly flip fly flows single-handedly with one eye closed in a fly pose, no shirt, a lay may see me stack the quarter mil cash pay, that's that in a smash way, how we did it, motherfucker probably couldn't peep it past a minute, it's the squizzy scripts, the quick shit, go with the flow, that's how we do it though. Yeah, yo, I like to give a special shout out, Rock Emerson, L, Rockwell, to the depths of hell, pure mathematics. Folding stacks like Craftmatics, Chief Justice, Supreme Love of Law, Prince Love of Law, Simon Master Sword, Chacon Law, Lord Yahoo. Peace. Yo, yo, yeah, yo. VS, shout out Cole, MF Grimm, the magician. Guard you now. Metal Face 2, your concurrence in the above is assumed. as the life cycle goes on. Goes on. And you learn to hold on, hold on to things like the mic. The mic. And you learn to appreciate who's the nicest. What's the device? But who is the finest? Time is a shuma, too much drama, blind behind a rumor. Time and time inside my mind, I'm trying to find a tumor. Time is a shuma, no time for humor. As soon as one of your men's dead and him's dead, you're trying to find puma. Sooner the better, we can knit a sweater already through your leather. We coming through the brutal weather, we ready to do whatever you're doing, you with it? You know it like a poet, my brother. Hey, gun, you with it? Whatever. I know about going paid to broke to next day well off. To bust a shell off, to dick riders get the hell off. Made a call to a client, he must have had a sell off. A show off, he had the same bike, puff fell off. I tell off the back, from science to view of facts. Which niggas is whack to they last two tracks. Matter of fact, y'all can wait for the rep to tell the tall tale, how he escaped from out the depths wait, of hell. Now he gon' die like a soldier die. Holding a swollen eye, drinking on gold, smoking a stove. Watching Popo patrol the beach, blowing my high, rolling by. When gun die, he gon' try to reach the streets to go to the sky. Yup, that whole war. Like drizzle in a paper cup. This one etched in stone. A chisel, rip the paper up. I need a cut, a taper up, edge up. Niggas can't measure up. I'm here to get the treasure dance up. Dance a pole, I'm high, do or die. He got heat, no surprise. Stop the beat, close your eyes. Cop the weed, roll a lot. Not sweet, so no demise. Hold the guys, drop seeds to multiply. Whatever the prophecies, hold the lie. No one. You blow my mother, my father, but can't please me. No OD. Ghetto misery. Blood my brother, my sister, but can't please me. A OJ. My mother, my father, but can't bleed. Me, side fly, whole style stuck up. Used to talk to myself, I told him shut the fuck up. Buckle up, cause it's about to be rough. He said keep talking that shit, you about to be snuffed. Then we squashed it, I let him know watch it. We only made the time to join these rhymers in the mosh pit. Gossip feel great just to increase your chance for a pussy nigga face to hit the dance floor. I pull your top up, got cloud crack rock what? Now it's all good business cause all the snitches locked up. On the dance floor, you got knocked out, your bitch got knocked up. Baby face Nathaniel, brand new machete. Damn, I just shook your hand, I can't stand you already. Can't stand you, understand you deadly. But my hammer's like a band, my man, it's brand new and heavy. Yo, Dune, you ready? Yeah, yo, gun, you with it? Whatever. Come on, stay, I wrote this rhyme on my born day. Remind me of the same style I flipped on, hey. Yikes, who could fuck with the likes of one such who scored touchdowns to Spike Mike's metal grill with many styles. Better still, feel like number 26 on a roulette wheel and deal and run rings around rhymers and run rings like number runners who's old timers. Shorty in the all black, she thinks she all that. I called her, she said don't call back. She called me, now what you call that? Let's go back, I sold crack, whole gas, smoke that, drink that, toe back. Fuck, where that hoe at, where that toe at? Suffering sucker tasks, hooker broke him to his last buck of cash. He love her, motherfucker ass, metal feet, dented your car fender. E queste erano The Finest e un'altra traccia che in questo momento mi sfugge il nome, Go With The Flow, quindi altri due classiconi della discografia di MF Doom, quindi il nostro dopo aver preso il suo posto sulla scena con questo primo album che al giorno d'oggi è ancora estremamente iconico e ancora fa scuola, sostanzialmente decise di prendere due strade e nell'arco di altri tre anni pubblicò diversi album. Il primo album si chiamava MFEP, sostanzialmente era un EP di coppia fatto da lui, MF Doom, e da un suo amico MF Grimm, che è un rapper iper underground, anche lui di New York, sostanzialmente è un rapper con cui si sono trovati a condividere l'appartamento i due per diverso tempo. Anche lui ha avuto una storia travagliata perché sostanzialmente faceva la vita del gangster, diciamo era in una gang, e poi sostanzialmente durante un agguato è stato colpito da diversi proiettili ed è rimasto sulla sedia a rotelle. Io sostanzialmente non sapevo nulla di MF Grimm. È ancora attivo, sì, io sostanzialmente collezionando molti vinili una volta ho comprato uno stock di dischi al buio, ho trovato MF Grimm che era ritratto sulla sedia a rotelle e ho visto un po' la sua discografia che tra l'altro è molto corposa diciamo pre e soprattutto post incarcerazione, perché ha fatto anche diversi anni in carcere, diciamo quindi una vita movimentata. I due si trovarono evidentemente bene tra loro e decisero di dare vita a questo split album e tra poco vi manderemo la traccia che si intitola The Original. L'altra traccia che vi stiamo per mandare in coppia viene invece da un progetto solista di MF Doom, che però non si presenta come MF Doom ma come King Ghidorah, che è un nemico di Godzilla, un drago a tre teste da un progetto appunto parallelo che si chiama Take Me to Your Leader, in cui è molto presente il campionamento da film di serie B, serie C o serie Z, credo anche da parecchi film di Godzilla, da parte del buon King Ghidorah, che pubblicò appunto anche questo album in maniera indipendente nel 2003, e per quell'album abbiamo scelto Fastlane. Quindi ve le mandiamo in coppia, The Original e Fastlane. Yeah, who is this character? You can imitate it, but never duplicate it. Just like a cat you copy, but the Xerox came out sloppy. Try to do it faster, but I am the master. Now you're getting nervous. Yes, there's only one. Niggas try to steal my name and fame, but they are my sons. Slap box with spirits, knuckle up with omens. Try to bite my flow in, and your mouth be foaming. Act hard, I murder each one of them. Toast roast the back of their heads, but blue brains to yards in front of them. Done with them, now they are forgotten. Cause I pick fights the way slaves pick cotton. Grim Reaper, aka the Grinch, I've been hated for a while. On trial, mind state murder, premeditated. Evidence is my 12-inch, chillin' with D, Smooth, Punk, and also Vince. Murder's mapped out in every measure. Bury enemies like the treasure. Give the Reaper so much pleasure. Lyrics are kept in stacks, knapsacks, and mental racks. Rhymes so crazy, Son and Sam, they have my tracks. Next, I ring them, cruise, I fling them, bring them all. I'll destroy your whole kingdom. I see all these niggas in the video, and I wonder if they're individually pussy and no safety is in numbers. All big head rappers, I will diss them. The world is too little. Grim Reaper, run the fucking solar system. I got mad flows. Yeah, you stole some. You thought you had the cookie, but you only have the cookie crumbs. Slash strokes and verbal combat. You stress your brain to the limit. Well, I stress mine beyond that. Send all pawns. I roll with knights and rooks. If looks can kill, then your crew kill with looks. I battle 10 men. What's dying? 10 men. For those who scheme on, dream on like Brian Benben. Master loose leaf, but rhyme books tight. Not afraid to face death, cause I know what he looks like. I'm the original. You can imitate it, I'm the original, but never duplicate it. I'm the original. Just like a cat you copy, I'm the original. But like the Xerox came out sloppy, I'm the original. Try to do it faster, I'm the original. But I am the master, I'm the original. Now you're getting nervous, cause I'm coming to the surface. I didn't do that, man. What? That's crazy, man. That ain't my drawing, man. Right, just stop, man. And they coming out here making money like trying to hustle me, man. Scooby-Doo. Miscarriage, all thoughts impregnated. Abort pre-actions, dreams are terminated. Your cranium's transparent, I can see right through you. Plus your speech is incoherent. Distortions of dialect communication. Damn. Now I gotta stomp y'all like communism. As you paradox, I rock solid like a prism. Since paralyzed, I don't paint pretty pictures. In my lyric books, hips hop, holy scriptures. Aggravated, cause my spine severed. I rhyme forever, dime a dozen, what? Me never. Legs can't move, but in my head I dance. I wear a hobo straight jacket with crooked pants. That's just for my life. God is judge, never plead a case. Always aware of the truth, we can never erase. Falling from grace, black North Face. Ounce of green smoke, jack with no chase. Pedal on the floor, thirsty for score. Fast lane, destination top, the cash game. Seek heat like a missile with mad aim. Who can't blame in this conspiracy campaign? A mystery the most, universal host. He is hot, y'all more often than not. Vision clear like a Hindu with the third eye dot. We be weak, nah, baby, that's my word I got. Enough rhymes, tough times, try talking to kids. We walk around thinking that doesn't forgive. Life in itself is like a bed. And if you're scared to die, then you're scared to live. Ain't it a shame dealing with the remain? Hennessy on the brain, travel the plane. World of copycats, twisted death traps. Blister sex raps, blinded jet black. Matters awake, a response since came to life. Sickening seance, escape the realm. Glide swift like old act. Fake jacks and cats, cast two smacks. Gentlemen relax, blaze trails that haven't been traveled in a while. Scatter clues for those who equate the style. Cruising in the Lex out the window seat while I be tripping off the rhyme, bop my head to the beat. Can't speak on delirious mood swings. True crown, a hand of the true kings. Title taken, back straightened, money making. Vital sign awakened, idle mind go to Satan. No debating on the vessel that we navigate. Gravitating, scheming, leave them standing waiting. Specialize in futuristic mental picture painting. Slave to sick ways, unquenchable thirst. Gift of a new day can seem like a curse. What we made penetrate the charade. Incision is barely felt from the sharpness of the blade. Moving motionless through this masquerade. Looming in the dark with just a single spark. Match made in heaven and hell apart. But still one, if it's right from start. So real, revealed, signed and sealed. What we feel translates to meals. That 9-to-5 shit is no joke. Muscling, scientist, but don't look down upon my hustling. E e questo era una coppia di singoli, The Original e Fastlane. Che cosa c'è da dire su King Ghidorah, che è stato pubblicato da Big Dada come casa discografica, e che appunto MF Doom, appunto con questo alias, ha fatto parte del gruppo Mosta Ilak Zars, in cui ogni rapper aveva il nome di un nemico di Godzilla. Non so se avete mai visto quei film lì, o diciamo visto l'originale del 54, tra l'altro in giapponese, ho visto la versione originale sottotitolata in inglese, che era in bianco e nero. Poi sostanzialmente con l'avvento del Technicolor hanno fatto tantissimi film che si basavano sullo scontro fisico tra Godzilla e vari altri mostri, come appunto King Ghidorah, come Mothra, come Godzilla vs Mechagodzilla, da quella cui colonna sonora è stato tratto Simon Says di Pharaoh & Monch. Insomma, sono dei film davvero brutti, molto brutti, in cui demoliscono città fatte di modellini, però sono assolutamente trash e sono evidentemente stati un grande motivo di ispirazione per tanti. Insomma, io li apprezzo molto come film. Consiglio Godzilla vs King Kong, che è quello più vedibile. E sta per uscire quello nuovo, tra l'altro. Quello nuovo non sarà mai come quello vecchio, Gigi. Cioè, dovresti vedere, c'è cioè, proprio i costumi in cui sono inseriti gli attori, le grida di incredibili, guarda, cioè, infatti negli anni 60, cioè, con effetti speciali tutti analogici, una meraviglia. Cosa succede sempre nel 2003? L'iperproduttivo MF Doom decide di scegliersi un altro AKA, cioè Victor Vaughan, sempre con la sua bella maschera di ferro, decide di pubblicare un album che si chiama Vaudeville Villain, con appunto questo nuovo AKA sempre dedicato al Doctor Doom. Questo disco uscì nel settembre del 2003, praticamente tre mesi dopo Take Me To Your Leader di King Ghidorah, e sostanzialmente in questo caso è probabilmente il primo album in cui non c'è una produzione musicale intera da parte di MF Doom, ma siccome appunto lui aveva cambiato un'altra volta l'etichetta, si era messo con la Sound Inc., praticamente tutti i componenti produttori della Sound Inc. hanno prodotto delle tracce appunto per il nostro, tra l'altro Saliva è stata prodotta da RJD2. E appunto secondo capitolo di questa saga è arrivato meno di un anno dopo, nell'agosto del 2004, con VV2, quindi Venomous Villain, sempre appunto secondo capitolo di questa saga. Noi appunto abbiamo scelto due tracce in particolare che racchiudono questi due album. Appunto abbiamo scelto Vaudeville Villain per appunto il primo album, quindi la title track, e poi per il secondo album Venomous Villain abbiamo scelto una traccia con un altro rapper visionario come Kool Kid. La traccia si chiama Doper Skiller, ve le mandiamo in coppia. Traveling vaudeville villain. You don't give a flying fuck, you ain't not filling them. Watch what you're dealing them. Ace, king, death card. Strong arm, the wrong man. Pardon the left guard. Get money and earn it, that everything you touch turns shit. Got much to learn, kid. Write it up, burn shit. Light it up like the Dutch when the hash melt. Only time they see him when they meet him with the cash belt. Ay, caramba, now that's my number. One dry summer, as far as I remember, burnt out. We're getting every edgy penny. Then he hit him straight to the head like Reggie Denny. Call him back when you need some more yak, horse yak. Doing 80 down the Van Wick on horseback. Your man's sick, but he wrecked tracks, puto. Get back to bro, Exactamundo. Victor the director, flip a script like Rob Reiner. The way a lot of dudes rhyme, their name should be Knob Shiner. For a buck, they likely dance the jiggle, do the hucklebuck. To Vic, it's no big deal, they just a bunch of knuckle fucks. You wonder how well would they hold up in the holding cell. It sorta had the strange makings of a tale told in hell. Like, oh well, whole tour riches. If the feds is really after them, they just told all the snitches. A borrowed time rhymes, gas by the silver screen. They act like they monkey ass, get healed back like Wolverine. Mellow out with y'all bellow out, y'all yellow mouth. What happened to the type of spit that used to help a fellow out? No doubt, leave a rapper in a body cast. I wonder what he was doing while we was in karate class. Snotty ass, it's really like he was a white belt. Right before he night-night, ask him how the light felt. I wouldn't take their tape if they gave it free. Maybe it's me, maybe it's B. Throw down the key, y'all know how shit be. In the naked city, rappers is so giddy. That's no ditty, born so witty. The way he take no prisoners is show no pity. It's how son became a big man from a black boy. To name names, a really big fan of Dan Aykroyd. He feel they need to give him his own dance. This is only chance to shoot the gift like a lone glance. Or like a beef scene that leave the ooey smoking. Or between Hoto sinking and Nanto sweet choking. Around to hear Vic Rocket. He learned a few new styles since a 2-year-old pickpocket. Clut owl, sad how sickening. Now get retarded like mad cow kicking in. Yick, Chris wasn't tricking. And what's in the stew if the flu is in the chicken? We all got our vices. Some got the gall to call the shots off the dices. And that's Vic, bring slaughter to your section. Have your awesome MC get an order of protection. His name rings bell, said Jake. He sings well, even with this king hell headache. Hit him with an anvil to trigger a scandal. If not just to get free press off the nigga channel. He only plays for high prices and raises his hourly rate based on how nice he There's is. There's a lot of I murder you raps with lame ass guys out of nowhere, corny asses. I never heard of you cats. Guys like you mess up a lot of tracks. Ask your neighborhood about me while you rapping, act tough and grizzly. Urinate on your jacket, leave you pissy. Star jockeys get your autograph for missing. Defecate on your best line, spit three verses in the cup and get busy. A whack ass coming this way must be cross-eyed and dizzy. You don't listen enough, see me pissing enough. Leave your yellow spots around your bed area. Defecate around your head area. Precise when I meet that ass and greet that ass. LeBray and what? Defecate on your apartment off one set of ya. Vaudeville Villain e Dopra Skiller da Venomous Villain. E ora arriviamo a un punto chiave della discografia di MF Doom, arriviamo a una vera e propria pietra miliare per l'hip hop, arriviamo a Mad Villainy. Praticamente è un album fatto in collaborazione, produzioni Madlib, rime MF Doom, è stato registrato tra il 2002 e il 2004 ed è stato rilasciato da Stones Throw Records, che all'epoca era una casa discografica praticamente sconosciuta, e poi praticamente questo disco ha fatto la sua fortuna. La maggior parte delle strumentali, la prima ve l'abbiamo mandata come prima traccia, quella di All Caps, sono state prodotte da Madlib durante un viaggio in Brasile utilizzando un equipaggiamento assolutamente minimale, cioè semplicemente un piccolo campionatore, un giradischi e un registratore a CD. Fate voi. E un album che tra l'altro era molto atteso ed è stato uno, penso, tra i primi album hip hop perlomeno indipendenti a venire leakato, perché praticamente un demo ancora in via di definizione, quindi ancora non la versione definitiva, era stato già leakato su internet. Immagino insomma non avesse avuto chissà che grande risonanza, perché internet non ce l'avevano in tanti, però comunque i due, quindi... Ma quindi scusami, questo album leakato è praticamente la versione sgrausa che girava prima, quando è uscito questo disco? Sì. Perché io sul mio caso c'ho quella versione lì. Ah, c'è la versione marcia? C'è una voce ogni tanto che si sente pure, oltretutto, non è abbastanza. Te la farò sentire. Ah, quindi diciamo, comunque internet ce l'avevano pochi, ma... Soul Sick c'era già nel 2003, eh? Mica, secondo me sì, anche da prima. Mica male. Lo uso anch'io tra l'altro, bello. Una bella roba, quindi c'è la versione leakata. Che cosa ha portato questo leak? Che ovviamente già era un prodotto indipendente, quindi non si aspettavano grandi vendite. Praticamente i due frustrati hanno deciso di accantonare il lavoro per il momento, per quel momento, e di concentrarsi su altre cose. Quindi effettivamente in quel frattempo MF Doom ha fatto uscire tre dischi, cioè King Ghidorah e i due album di Victor Vaughan, in maniera appunto che l'attenzione si concentrasse di nuovo su quelli e sembrasse che Mad Villainy non sarebbe uscito mai. Invece poi l'hanno fatto uscire con grande soddisfazione di noi altri. Quindi vi mandiamo la prima traccia, che si chiama Accordion. Living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick Dastardly and Muttley with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mix master. ICE Cole, nice to be old. Y2G Steve twice to threefold. He sold scrolls, lo and behold. Know who's the illest ever, like the greatest story told. Keep your glory, gold and glitter. For half of his niggas to take him out the picture. The other half is rich and it don't mean shit to. Villain, a mixture between both with a twist of liquor. Chasing with more beer, tasting like truth for dear. When he at the mic, it's like the place get like, oh yeah. It's like they know what's about to happen. Just keep your eye out like I capping. Is he still a fly guy clapping if nobody ain't hear it? And can they testify from in the spirit? And living the true gods, giving y'all nothing but the lick like two broads. Got more lyrics than the church, got ooh lords. And he hold the mic in your attention like two swords. Or either one with two blades on it. Hey you, don't touch the mic like it's AIDS on it. Yeah, it's like the end to the means. Fuck type of message that sends to the fiends. That's why he bring his own needles and get more cheese than Doritos, Cheetos or Fritos. Slip like Freudian, your first and last step to playing yourself like accordion. When he at the mic, you don't go next. Leaving pussycats like why hoes need Kotex. Exercise index won't need Bowflex. And won't take the one with no skinny legs like Joe Tex. Ehi, oh, e questo era Accordion. Considerate che all'epoca questo disco fu subito un successo e venne anche recensito da testate giornalistiche che normalmente non si occupavano di hip hop. è stato un disco che ha venduto moderatamente, però considerate che si trattava di una piccola casa discografica, quindi è praticamente diventata la vendita di più successo della Stone Throw Records. Tutti quindi elogiavano sia le strumentali di Madrib che la grande tecnica al microfono di MF Doom, e alcune testate giornalistiche, pensa un po', l'hanno messo tra i migliori album di sempre. Quindi per dire quanto sia una pietra questo album, e appunto è stato venduto proprio in copia fisica anche da negozi che fino a quel momento lì l'hip hop non se l'erano mai filato manco di striscio. Quindi questo per dire una vita strana, strani modi, esattamente come la traccia che stiamo per mandare, che si chiama Strange Ways. Wreak havoc, beat beatless, mad traffic, sleek and lavish, people speak and leak it to the maverick. He see it as just another felony drug arrest. Any day could be the one he picked the wrong thug to test. Slug through the vest, shot in the street for pulling heat on a father who babies gotta eat. And when they get hungry, it ain't shit funny. Paid to interfere with how a brother get his money now. Who's the real thugs, killers and gangsters? Set the revolution, let the things bust and thank us. When the smoke clear and you can see the sky again, there will be the chopped off heads of Leviathan. My friend, I call them strangers. Anybody talk to them, end up in some danger. Can't reform them. They pray four times a day, they pray five. Who weighs the strains when it's time to survive? Some will go of their own free will to die. Others take them with you when they blow sky high. What's the difference? All you get is lost children while the bosses sit up behind the desk. It costs billions to blast humans in half into calves and arms. Only one side is allowed to have bombs. It's like making a soldier drop his weapon, shooting them and telling them to get to stepping. Obviously, they came to portion up his fortune. Sounds to me like that old robbery extortion. Same game, you can't reform them. That Mary was going around with an old flame. That burned me up. Ehi, hey, oh, e questo era Strange Ways. Capolavoro. Capolavoro, ragazzi. Questo è un disco che ha una storia che merita di essere raccontata. Perché? Perché appunto dicevamo di Operation Doomsday. Tra l'altro non vi abbiamo detto, la copertina raffigurava effettivamente il Dottor Doom dei Fantastici 4. Dopo questa release, Madlib, che già era un produttore molto quotato, dichiarò in un'intervista che avrebbe voluto collaborare con due persone, cioè J. Dilla e Doom, e tra l'altro riuscì a farlo in entrambi i casi. E praticamente cosa è successo? L'etichetta, la Fondlem, che aveva pubblicato il primo album Operation Doomsday, chiuse, e quindi Doom sparì dagli schermi per quei 2-3 anni, e in quel periodo visse tra New York e un sobborgo di Atlanta in Georgia. Per pura coincidenza, il manager di Madlib presso Stone Throw Records aveva un amico nello stesso posto, e quindi gli chiese di mandare a Doom delle strumentali di Madlib senza dirgli che fossero di Madlib, che tra l'altro appunto lui non conosceva. E quindi 3 settimane dopo l'amico del manager di Madlib lo chiamò dicendogli che appunto le strumentali erano gradite ed MF Doom voleva lavorare con Madlib. Quindi questa situazione portò a un'offerta. E sostanzialmente questo quasi manager di Doom chiese un biglietto aereo per Los Angeles, dove viveva Madlib, e $1,500, e quindi nonostante l'etichetta, fate conto, non avesse abbastanza soldi neanche per pagare i biglietti, acconsentì subito, proprio pur di lavorare con MF Doom. E fate conto quanto era piccola e indipendente per non avere manco €1,500 per partire con un contratto, e quindi sostanzialmente ci fu anche questo appunto primo incontro che avvenne sostanzialmente in una stanza da letto che era anche un ufficio della Stone Throw Record, e appunto il manager di Doom arrivò subito al dunque chiedendo i soldi, e quindi questi disse giustamente se era arrivato qui vuol dire che si sarebbe creata un'alchimia perfetta, e quindi insomma acconsentì al tutto, e quindi questo piano divenne un piano di successo. E una volta collati i soldi venne scritto un contratto tu penserai su un contratto in duplice copia, stampato un PDF, no, su un piatto di carta. E quindi questo è veramente una storia veramente underground, questa è la musica veramente che ci piace e che amiamo. Vi mandiamo un altro estratto che si intitola Rhinestone Cowboy. Oh yeah. Hold a cold one like he hold an old gun, like he hold a microphone and stole the show for fun, or a foe for ransom. Flows is handsome, holds in tandem, anthem, random, tantrum, phantom of the grand old Opry, acts the dumb hottie, mask, pump shoddy, somebody stop me, hardly come sloppy on a retarded hard copy, after rocking parties he departed in a jalopy. Watch the drop top poppy, known as the grimy, limey, slimy, try me, blimey. Simply smashing in a fashion that's timely. Mad villain dashing in a beat rhyme crime spree. We rock the house like rock and roll. Got more soul than a sock with a hole. Set the stage with a goal to have the game locked in a cage, getting shocked with a pole. Overthrow it like throwing over a biscuit. A lot of bitches think he's overly chauvinistic. Let go his dick if that's the case. Rats, what a waste, there's more cats to chase. Dogs, he got it like new powers. Woke up broke and spit the shit in a few hours. Sheesh, been unleashed since the Glee Club. Had your fam saying please make me a dub. Well, since you asked kindly, where he been behind the mask, who can't find me? You're blind, in the wine zone. Leave your mind blown when he shine with the nine. He's a rhinestone cowboy. No, enough. Goonie Google, loony cuckoo, like Eric Anu off Newsu Review. But who knew the mask had a loose screw? Hell could hardly tell, had to tighten it up like the Drells and Archie Bell. It speaks well of the hyperbase, wasn't even tweaked and it leaked into cyberspace. Couldn't wait for the snipes to place, at least a track listing bone print typeface. Stop for a year, come back with thumbtacks, pop for the beer. We're hip-hop sharecroppers, used to wear flip-flops, now rare gear coppers. He's in it for the quiche, you might as well not ask him for no free shit, capiche? Oh, my aching hands, from raking in grams and breaking in mic stands. Villain, the smile stunned your chick, while he put himself in your shoes, run your kicks. You heard it on the radio, tape it, play it in your stereo, your crew will go ape shit. Raw lyrics, smells him like a hunch, the same intuition that tells him spike the punch. Curses, he's truly a worshipist with enough rhymes to spread throughout the boundless universes. Let the beat blast, she told him wear the mask, he said you better speak ass. It's made of fine chrome alloy, find him on the grind, he's the rhinestone cowboy. Sometimes they were comedic, or relentlessly horrifying. They were the foes of society, whether fighting the local sheriff or a secret agent. Frequently, they mirrored our times, the gangster villains which rival real newspaper headlines of the present day. Collectively, they are the components which have fueled nightmares for decades to come. The villains. E io diamo il benvenuto sull'astronave a Greta. Ciao Greta, che grida wow. E allora abbiamo mandato Rhinestone Cowboy di appunto MF Doom e Madlib. Cosa c'è ancora da dire su questo discone? Su questo discone ce n'è. Ovviamente abbiamo detto la maggior parte delle strumentali sono state prodotte da Madlib durante un viaggio in Brasile nella sua stanza d'hotel. Questo disco tra l'altro penso sia stato abbastanza anticipatore dei tempi, perché sono 22 tracce ma dura 40 minuti, perché la maggior parte delle tracce, come avete potuto sentire, è più breve di 3 minuti o al massimo di 3 minuti, senza neanche un ritornello, senza neanche un ritornello. Che bello, che bello, che bello. Che cosa c'è da dire? Parliamo anche dell'album cover. Praticamente è stato creato dall'art director di Stone Throw, che era Jeff Hank, e sostanzialmente è semplicemente un ritratto di MF Doom in bianco e nero che indossa la sua maschera. Questo perché? Perché fino a quel momento lì Doom non aveva davvero, realmente non aveva un'immagine pubblica. Cioè, tutte le hip-hop heads sapevano che indossasse una maschera, ma non avevano mai visto il suo aspetto, anche perché, voglio dire, non c'erano i social, non c'era niente, quindi in un certo senso i rapper un po' te li dovevi anche immaginare, e siccome non c'era neanche una foto, che dovevi fare? Quindi... Questo art director decise di dargli veramente un'immagine, immortalandolo sulla cover, per fare una definitiva cover di Doom, e quindi ha pensato all'immagine di quest'uomo perché indossasse una maschera, e l'ha opposto al dipinto di una maschera, quindi semplicemente perché diceva, voglio dire, Chi mai andrebbe in giro con una maschera di metallo? Qual è la sua storia? E quindi, chiudendo questo album qui, insomma, è un capolavoro, e vendette comunque bene, perché comunque vendette approssimativamente 150.000 copie. Poi, che cosa succede? Che quindi la carriera di MF Doom decollò, e appunto tramite Rhymesayers Entertainment nel 2004, quindi insomma poco tempo dopo anche Venomous Villain pubblicò MM Food, quindi un gioco di parole, un acronimo, come suo quinto album. E appunto in questo caso questo album sostanzialmente ha tutte le tracce che richiamano degli alimenti, e in cui sostanzialmente appunto il nostro sfoggia il suo estro. Vi mandiamo subito una coppia, tra l'altro una di queste tracce era anche uscita come singolo in vinile, Hoe Cakes e Pot Holders. Keep your hoes in check. I got this girl and she wants me to duke her. I told her I'll come scoop her around 8, she said. Super. That sounds great, shorty girl's a trooper. No matter what I needed to do, she'd be like. Super. On his own throne, the boss like King Cooper. On the microphone, he flossed the ring. Super. Average MCs is like a TV blooper. MF Doom, he's like DB Cooper. Out with the moolah, I let her get her outfit. Just to cool her off, she said niggas ain't about shit. I wonder if she meant it, I doubt it. The way it be in her mouth, she can't live without it. Can't live with this, handle your business. Villainous, stay on a scandalous whole shit list. One pack of cookies, please, Mr. Hooper. It's fun smacking rookies, he is the Super. Look like a black Wookiee when he let his beard grow. Weirdo, brown skin, it always kept his hair low. Rumors has it, it's a S-curl accident. Doom was always known to keep the best girls' backs bent. Some say it's the eyes, some say the accent. A lot of guys wonder where their stacks went. I call her thunder thighs with the fatty swoller. Only mess with high rollers, do what daddy told her. No matter the city, she with me to do the thang thang. Working the coochie, hoochie, chitty chitty bang bang. Same name on the titty as on the name ring. Pretty like Baby D or all in the same gang. Keep my eye on her, really don't trust her, but I treat her like a daughter. Taught her how to bust a nut and the heat to turn beef to horse meat chalupa. Teach her how to hold it, of course he is the Super. See, most cats treat her like fupa, or beat her to a stupa. Take it from the Super. You need to make her feel cuter, and lay down the G like loofah. Everything will be Super. Do for her, keep her in a new fur, so she looks sweet when she go to meet the Super. Got the Buddha, get the Grenadiers, twist it, put it in the air, come in, kiss it. Listen here, Scooter, let her try to bag you when she's on the rag, never let her fry the ragu. Would she have you under some type of spell, crying dag, boo, her name on your back in a tattoo. Whether a bougie boy, nerd, whole street chick, don't call her wife if you met her at the freak nick. You don't want her, don't waste her time, I'll dupe her, and be a father to your child like the Super. He keep his hoes in check, sends him out to get glows from all frozen necks. Tell him take his clothes, leave him posing naked for real. Better yet, get him for the check off the record deal. Find out where he keep the tech and the blue steel. Make sure for extra rec, let him know how you feel. And while he's running down to All-Star Weekend to ball, I'm coming with the U-Haul. We'll be right back. Everything has been prepared as you ordered. But how did you get permission to return to New York, Master? Through the efforts of a misguided fool. It's free enterprise! And I'm not gonna let some blasted government bureaucrat tell me how to run my business. To be humble, lest I stumble. Never sold a jumbo or cop chicken wings with mumbo sauce. Tyson is a foul holocaust. Hitler gas your whole head up with poultry. I'm fed up. Ignore cordon bleu. Stand up, get up. Lunge for your knife. Don't forget your pot holders. Hot shit. What? These old things? About to throw them away. With the gold rings that make them don't fit like OJ. Usually I take them off with oil or Olay. MCs is crabs in the barrel past the old bay. Hot as hell and it's a cold day in it. Working on a way that we could roll away tinted. Some say the price of holding heat is often too high. You either be in a coffin or you be the new guy. The one that's too fly to eat shoe pie. Never too busy when it comes down to you and I. A lot of niggas wish to die. You need to hold their horses, it's bigger fish to fry. You're on the list, if not, pick a number spot. 10 and a half Tim's is made to kick your bumper clock. Could've had a V8, F-150 quad cab, but I'll be straight. Money comes and goes like that two-bit hussy that night that tried to rush me. Dwight passed the Dutchie, so I could calm down so they don't get it twisted. Take it from the fireside and won't get blistered. Got it. What happened? Oh, it's not lit. These metal fingers be holding hot shit. When I was 4, I penned guard, was born in New York back in 77. Still got Nan in the crescent. The effervescence of guard's presence is thick, unlike vapor. Extra roll, extra roll. Word to the baker. Peace to the hard working gingerbread makers. Looked up and down, said, too much makeup. Poor music taste, 10 years from being grown up. Rappers don't blow up, heads do. My name is Dwight Spitz, I'm a sonic addict. I used to think it was merely a nagging habit. Born under a bad sign, I'm serious about this curse of mine. I strive to flip it into fine wine. Barely born a virgin is what the stars said. Black, not white, red all over though like Elmo. 28 years have passed, I feel I'm peaking. I make music every weekend. It's a chore, a fact of life. A labor of love. I get mad love, but I detest the labor and its wages. You know, death. I'm serving life from this gift of God. Don't forget your pot holders, my niggas. Mohawk. Mohawk shit. Mohawk shit. Ehi, yo, che potenza questo basso ignorante. Sì, sì. Diciamo c'era giusto due robine, perché comunque MF Doom spingeva bene anche dei giochi di parole molto intelligenti. Hokex non è altro che un alimento, ma veramente antico, degli antenati di MF Doom, sostanzialmente degli africani d'America, che avevano appunto... Quasi tutti vivevano negli stati del sud degli Stati Uniti e venivano insomma utilizzati, purtroppo perché c'era la schiavitù, nel lavoro dei campi. Queste hoecakes sostanzialmente erano una veramente ricetta mega artigianale che loro facevano come una specie di focaccina, e per cucinarla, siccome non avevano molti strumenti, la facevano cuocere letteralmente al sole sulla zappa. Cioè mettevano la zappa in alto, piantata nella terra al sole, e questi è proprio uno dei piatti più poveri e più antichi della tradizione degli africani d'America, e quindi lui l'ha voluto riproporre. Così come la traccia Pot Holders è una traccia diss al suo vecchio compagno d'appartamento, al suo vecchio compagno di merende MF Grimm, che appunto con cui appunto si scambia delle rime velenose. Poi appunto continuiamo con gli alimentari, in questo caso, come dire, si dice facciamo un brindisi, e appunto continuiamo sempre con MM Food e con la traccia che si intitola One Beer. So tell me why shouldn't it be true? I get a kick out of brew. There's only one beer left. Rappers screaming all in our ears like we're deaf. Tempt me, do a number on a label. Beat up all the MCs and drink them under the table like it's on me. Put it on my tab, kid. However you get there, foot it, cab it, iron horse it. You leave it on your face, forfeit. Across the mic, hold it like the heat, he might toss it. Told her, tell him they stole it. He told her he lost it. She told him get off it and a bunch of other more shit. Getting money, DTs be getting no new leads. It's like he eating watermelon, stay spitting new seeds. It's the weed, give me some of what he drooping off. Soon as he wake up, choking like it was whooping cough. They grouping soft. First hour at the open bar and they trooping off. He went to go laugh and get some head by the side road. She asked him autograph her derriere red to wide load. This yard bird tastes like fried toad. Turn love villain. Take pride in cold words. Crooked eye mode nerd geek with a cold heart. Probably still be speaking in rhymes as an old fart. Study how to eat to die by the pizza guy. Know he's not too fly to ski. Squeeze her eye, and squeeze her thigh. Maybe give her curves a feel. The same way she feel it when he flow with nerves of steel. They call her super when they need their back to a plumbing fix. Howard's only one left, the pack coming six. Whatever happened to 2 and 3? A Herb tried to slide with 4 and 5 and got caught. Like, what you doing, G? Don't make him have to get cutting like truancy. Matter of fact, not for nothing right now. You and me, looser than a pair of Adidas. I hope you bought your spare tweeters. MCs sound like cheerleaders. Rapping and dancing like Redhead Kingpin. Doom came to do the thing again, no matter who be blinging. He do it for the smelly hubbies. Seems know what time it is, like it's time for Teletubbies. Few can do it, even fewer can sell it. Take it from the dude who wear a mask like a tarted helmet. He plots shows like robberies. In and out, 1, 2, 3, nobody's please. Run the cash and you won't get a wet sweatshirt. The mic is the shoddy, nobody moves, nobody get hurt. Bring heat like the boy done gone to war. He came in the door, and everybody on the floor. A whole string of jobs like we on tour. Every night, on a score, coming to your corner store. Representative from South Africa has been mind programmed. All of the world's leaders on earth are under my control. E questo era MM Food. Saluto il mio amico Lambda Beat, che dovrebbe avercelo in copia originale. Non so se è comprato a Londra ai tempi dei tempi dei tempi. Bella lì Lambda Beat. E andiamo a un'altra collaborazione della Madonna, un'altra collaborazione storica anche lì, tra Danger Mouse, uno che andava in giro vestito da topo, e MF Doom, uno che andava in giro vestito mascherato. C'è una bella coppia comunque, mica male. Tra l'altro Danger Mouse, per chi non lo conoscesse, insieme a CeeLo Green forma gli Gnarks Barkley, che appunto qualche anno fa impazzarono nelle radio con la canzone che si intitolava Crazy, una canzone che tra l'altro al primo evento live utile Gigi canterà in playback. No, che playback? Con la voce originale. Ottimo. Ma farai lo stesso acuto di CeeLo, quindi. Sì, perché in realtà la registrai io e poi ho venduto le royalties a loro. Perfetto, quindi insomma avremo anche l'originale. Esatto. L'originale. Allora, quest'album è stato realizzato da una label indipendente, come al solito, punk però. Si chiamava Epitaph Records. Ah, grande, quella dei NFX. Esatto. È stato pubblicato nel 2005, quindi come vedete, cioè, MF Doom aveva una media di 1-2 dischi l'anno, mica male, cioè, considerato che era tutto un'epoca di copie fisiche, e tra l'altro che dischi. E praticamente è stato rilasciato poi anche negli Stati Uniti con un'altra stampa. La copertina vede praticamente come se fosse il simbolo dei pirati, cioè lo scheletrino sotto, cioè ci sono le due ossa, praticamente c'è un topo con una maschera di ferro e sotto due ossa, quindi mica male. E sostanzialmente è un album che è diventato memorabile. Io tra l'altro l'ho visto uscito da poco, perché veramente un ragazzo che veniva nel mio liceo, un mio amico che saluto, il buon Michele, detto il Client, che faceva il rap con Voltus, che faceva la spalla, quindi salutiamo anche il buon Voltus, praticamente aveva una bella collezione di vinili, tra cui questo disco che era appena uscito, che credo è stato il primo album di MF Doom che ho sentito, quindi immaginate un po' che impatto. Vi mandiamo il primo pezzo, che si chiama Sofa King. Water and get out the rain. Order a rapper for lunch and spit out the shame. Then kick a lungy off the tip of his timbo and trick a honey dip into a game of strip limbo. Odd, he couldn't find no remorse. A wink is as good as a nod to a blind horse. Of course, his technique was from a divine source. Never knew the price of ice or what swine cost. One guy tried to bite the heat. It's when he discovered the other white meat. Oh, the one they hate so well. He sure keeps his cycle like the old Bates Motel. They came to ask him for at least some new tracks, but only got confronted by the beast with two backs. Knock, Mouse is a made man. Villain laid it down like the best laid plan. Bell the cat, who the hell is that near the middle? Got y'all, but it's not all bear and skittles. Prepare the vittles, got riddles and spittles. Crystal clear to the jot or the tittle. It's hot off the griddle. Came to take the cake whether there's a lot or a little. Kaboom, Doom is nervous large. You could tell by his blooming room service charge. Dark and tall to boot. The only thing was wrong is he was bald as a coot. Used to ran a van from Peter Pan to Red and Tan and keep the human foot for his dead man's hand. This was when the mask was brand spanking new, before it got rusted from drinking all the brew. Stankin' too, pew. Kept all his earnings in the bank in a shoe. Spat what he knew, energy for true. To all fake rap, it's 23 skidoo. Excuse you, any room in the class front? Four blasts of the blunt, shrooming since last month. Doom a human in the mask, born to stunt. Danger zooming past, mad fast on the hunt. Keep your streets, we got the city neatly conquered. Discreetly with the CD till they be completely bonkered. The fans demanded it, handle it, swallow it. His own brand of shit, if only he could bottle it. Nah, she could get messy. Feds try to torture him for the secret recipe. He said it's no use, I only know half. No speak of the English, I only do the math. Felt no pain, his brain was saturated with cocaine and Rogaine. He said try scam, no thing, three card dead. Fly man, go for bling, he got bled. Eye jam over sting, see spots red. I am sofa king, we taught Ed. We taught Ed. Now repeat all very fast, please. I am sofa king. Faster. I am sofa king. We taught Ed. No, not so fast. Loses meaning. I am sofa king. We taught Ed. Sofa king. Il re del divano. Noi abbiamo avuto, diciamo, la versione italiana col nostro buon Esa, che è il presidente, che è il Capitan Futuro, che ha fatto una saga che si intitolava King Divano. Tra l'altro sul primo album c'era immortalato il divano dell'Hip Hop Club, quindi esatto, un grande saluto al nostro amico e King anche Divano, anche alla nostra chitarrina. Un grande saluto a King Divano. Cosa c'è da dire su Danger Doom? Tra l'altro un disco bellissimo che vi consigliamo, esattamente alla stregua di Mad Villain. Appunto, è un album composto interamente come produzione da Danger Doom, da Danger Mouse, con il rap di MF Doom. In questo caso il nostro produttore non ha campionato musica brasiliana come Madlib, ma ha campionato diversi programmi televisivi che andavano in onda su Cartoon Network, soprattutto nella programmazione notturna, perché c'era un blocco notturno che si chiamava Adult Swim, in cui c'erano appunto anche cartoni animati, che però non erano proprio cartoni animati per bambini, cioè non erano Titti e Gatto Silvestro, per dire, ma erano effettivamente, non so, cartoni, non so, un po' come Evangelion, insomma, un po' espliciti anche dal punto di vista sessuale, penso sia stato Ramma Mezzo anche come linguaggio, erano espliciti e ha campionato quelli. Tra l'altro Adult Swim è stato anche, come dire, la piattaforma di lancio per un altro gruppo che abbiamo trattato qui in questa sede, che sono i Rande Jewels, perché loro praticamente hanno fatto le prime tracce per l'evento annuale di Adult Swim. E quindi insomma è un luogo di creatività per quanto riguarda l'hip hop e le genialate. Quindi abbiamo ancora un paio di traccione meravigliose. Vi mandiamo la prima, che si chiama The Mask, featuring un altro rapper mascherato, il buon Ghostface Killa. Head on straight, mask on crooked. Exit stage left with the cash gone, took it. Off like a koofy, the fit was a bit doofy. He tried to get screwed with that two for you, one two for me, G. Cut the cranky attitude, wet him like a handkerchief on a stanky fatter dude. Whether you's a rapper or a dang sanger, once you in, it's only one way out. Like a gangbanger with a new crew keychain and street name. What said do he claim for fame? Peep game, just to keep fetter and stay dipped. You need it like a letter or better, a getaway whip. This old thing's rusted, encrusted as the gold rings, the old king's busted. Plan to end global starvation and fat her. Now what in tarnation did I go and do that for? Stuff happens, like getting snuffed for tough tit rapping. See, I told him enough, quit you yapping. The same applied to any and all chumps. The only question he had for y'all is how many lumps? Three or four, either or. One sherry or more. Said, why you need your heater for? The super villain slid in your party for free. Warner MC, get out of here, kid, you bother me. Took my mask off, my face was missing for 2 days. For the record, G came back a year later, whole new identity. Tony Stark's pedigree, my money green like my nickname was Celery. Who was Ghost, who flashed his toes? Never wore sheets but bulletproof coats. Oh no, the fans cried for the mask back on. Told him Ghost is dead, he returned at the crack of dawn. Few years from now, him and his pals before the Jetson ever arrived. He'll be back summertime 2005 with a half a face iron. The other half wore to look like alien science. In the summertime, yeah, you can see the face boy, but the other side I keep lube with the pens on. You mad loyal, When the winter time come, what? I get stuck cause my brain all numb. Like I ate 1,000 ices and frozen Pepsis. Aquaman's pops can't water check me. Disrespect me, indirectly. I seen his feet and they both lefty. He's stepping half correctly as I stroll the globe and terrorize the planet with a Bill Clinton mask and them play school hands. Me and Doom always be the best on the landing. Superheroes for life until our souls vanish. Questo era The Mask, perché vi ricordiamo che il buon Ghostface Killa all'inizio della sua carriera andava in giro mascherato, probabilmente perché ai domiciliari non doveva farsi vedere in giro. Tra l'altro uno dei miei rapper preferiti con la sua voce villana. Idolo, anche lui un altro fissato con i fumetti, uno dei suoi AKA è Iron Man, se non mi ricordo male è anche il titolo del suo primo album. Sì. Prometto che faremo prima o poi una puntata dedicata a Ghostface Killa, perché è uno dei miei rapper preferiti. Che c'è d'altro da dire? A suo tempo poi hanno fatto anche un mini EP con MF Doom, e MF Doom ha anche fatto diverse produzioni per lui, perché tra l'altro noi vi stiamo proponendo la discografia rap, la discografia musicale per quanto riguarda il rap, diciamo, di MF Doom. Poi MF Doom come produttore esterno ha collaborato con una miriade di persone, forse ancora di più che con il rap, quindi sostanzialmente potreste farvi un'annata solo di ascolti di MF Doom e penso che non vi annoiereste, perché come potete vedere non era mai banale. Cosa c'è da dire ancora su The Mouse and the Mask? Sostanzialmente si continua il battibecco tra MF Doom e MF Grimm in una traccia che si intitola El Chupa Nibre. Appunto MF Doom lo insulta ed MF Grimm ha risposto con la traccia Book of Daniel, cioè il libro di Daniele dalla Bibbia, perché appunto MF Doom si chiamava Daniel. E quindi diciamo questo è un po' la cornice, e ora tiriamo fuori dal cilindro uno dei singoli più belli che io amo di più personalmente, il pezzo più bello per me di questo disco. Si riformano gli Gnarx Barclay, il ritornello lo canta Silo e la traccia si chiama Benzy Box. Who is he? But don't worry, believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty. La la la. La la la la la. Jump him in like jump rope. Double dutch, then turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle clutch. Is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone? Sing a song of slap happy crappiness. He came to blow like it was strapped to his nappy chest. Surely I jest. The best on a wireless mic, not an eye test. Yet I digress. But why stress? Try and remember when maybe bit the tender skinned babysitter Gwendolyn. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. He know, flow like interstellar wind. Toe a rap gin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Loose wreck, see through your gooseneck EQ. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la. I may interject. Rap these days is like a pain up in the neck. Cornier and phonier than a play fight. Take two of these and don't phone me on the late night. The beat won't fail me with more rhymes than times he washes hands and feet daily. And all that kerosene ain't cheap. Villain been deep since a teenage creep. Peep. He always was a gentleman and kept a pen and a pencil in his mental den. Right there next to where the Rolodex was before it turned up all burnt by his solar plexus. He don't know his own strength when he's on the bonus like the microphone's length and width. Ain't it funky like dingy socks? Feel the full effect off cassette in your Benzy box. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la. Ehi, oh, che bassi ragazzi, bellissimo, che bellissimo. Bassi, una delle tracce più leggendarie di sempre in quella lontana estate del 2006 presumo, perché effettivamente deve essere uscito a quel tempo lì, cioè andavo ancora a scuola, fai te, però non invecchia mai, non invecchia mai. E ora vi lanciamo un altro singolo che io amo tantissimo e secondo me il mio buon amico DJ Pange un po' meno, perché ai tempi, si parla del 2010, io e il mio caro amico DJ Radio Rahim abbiamo iniziato appunto al centro giovani Cesate che si chiamava Ketal, essendo che nella nostra zona non è che ci sono spazi occupati, c'era questo posto appunto dove il Pange faceva l'educatore e avevamo questo CDJ proprio base con cui cercavamo di imparare a mixare, quindi ci eravamo fatti i CD, ovviamente non c'era tutto questo grande uso di USB eccetera, ci eravamo fatti i CD e mixavamo le canzoni, ovviamente erano sempre quelle e io personalmente facevo sempre impazzire il Pange perché non mixavo le robe a tempo, quindi lo saluto affettuosissimamente. Grande Pange. Old School, feat. Talib Kweli. One, two, three, in the place to be. MF Doom, Talib Kweli. Oh, here we go. On born days, I used to blow out the candles, and every Saturday, watch cartoons at noon, and then I switched to Ralph and Danny's. I was making up a miracle flow over a cereal bowl and a pause beat from my stereo. Rhyme stronger than Popeye with the spinach out. Gangster like a fraud, but courageous cat and Minnie Mouse. Yeah, baby, I'm tripping and it's just a cartoon of you. But I got chills when I heard I'm doing flip the Scooby-Doo. And I might be bugging, but it seemed to me that cartoons be realer than reality TV. They inspire my decision to be open and listen, but folks got it all twisted like a yoga position. Like, in order to spit it dope, you gotta have a criminal past similar to the cast of different strokes. Me and my people break bread, sit and smoke the conversation rich, but that depend on what you consider broke. I draw on anything for inspiration, a fond memory, a piece of paper, walls in a train station. It's just that I'm old school like that, roll that rap over souls like that. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over soul loops like that. Old school, y'all. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over soul loops like that. Old school, y'all. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over soul loops like that. And we'll be right back after these messages. Fellas, grab your nutsacks, cheeks, squeeze your breasts. We ain't all that grown, it's still funny. Like going to the store on your own rainbow money. Since then, had an insane flow, sonny. Walking to the corner, rhyming in the rain, nose runny. Break dancing, maybe 10. Bummy is when Sub Rock would run up handspring, Arabian summy. Ooh-ee, like a Hong Kong fooey kick. Or a weekend afternoon karate movie flick. Slept good, no justice, no peace. Woody kept it hood, he never discussed it with police. Shot the fair when nobody ran to get the gat, or felt they had to put it up in their raps to set it fat. And since when lyrical skills had to do with killing the cat? What type of chitlins is that? The supervillain as the bat, hydrotonic. Whoever willing to ride, provide raw chronic. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over souls like that. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over souls like that. Old school, y'all. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over souls like that. Old school, y'all. It's just that I'm old school like that. Roll that rap over souls like that. Ah, yeah, questo era Old School dall'album Danger Doom, ve lo consigliamo. Andiamo avanti all'ennesimo album di Doom, siamo al sesto album da solo, escluse le collaborazioni. Si intitolava Born Like This, è uscito nel 2009 ed è uscito tramite Lex Records, quindi un'altra casa, sostanzialmente ha fatto quasi tutti i dischi sotto case discografiche diverse, penso sia un piccolo record. E tra l'altro, essendo che ormai era diventato anche abbastanza noto, ha venduto 10.000 copie nella prima settimana, che non è male. Faccio Rucaz, assolutamente. E appunto c'erano varie tracce prodotte da Madlib e anche da J Dilla. L'album, appunto, Born Like This, è mutuato sostanzialmente da una poesia di Charles Bukowski che si intitolava Dinosauria Ui, che appunto è stata la lettura di questo di questa poesia è anche fatta proprio all'inizio di una delle tracce di questo album. E quindi abbiamo scelto una delle tracce più famose di MF Doom, appunto per presentare Born Like This abbiamo scelto una coppia di tracce. La prima è Gazillion Year, che è uscita penso in 12.000 remix, e l'altra si intitola That's That. Wasteland sands, raps on backs of treasure maps, stacks to the ceiling fan. He rests on his ashes, ask him after 10 miles and his galashes, smash his stashes. Chip on his shoulder with a slip-on holster, a clip, a folder, and his grip on a boulder bolster. They supposed to know, his show in his aura glow. Get from out the road when he get dough, it's horrible. Time is money, spend, wait, save, invest, a fest. The 10K, a cave, a chicken chest, S. Yes, y'all are dumb and get your trickles. The best ballers pitch in and rub to get a nickels. But tut tut, he bout to change the price again. It go up each time, he blow up like hydrogen. Villain here, album's shrilling in fear. It won't stop top ill until he a gazillionaire. Grilling stare, yeah, your boy had drama. Got him on the mental plane, avoided bad karma. One solar in brand skinhead, a nigga joke. Plus a brand new chrome smoker with the triggers broke. I thought I told him fire and pins were separate. He find out later when he tries to go and rep it. Took a Jehovah money for an Arabic Torah. Charged in advance, translated and ignored us order. One monkey don't stop, no slaughter. A junkie wanna cop a quarter ton, run for the border. Know the drill, it ain't worth the overkill. Flow skill, still, there's no grill. Fill a billion 10k bills in this pillar. Villain when it gets realer, split the skriller with Dilla, Dilla. Mix, mix, mix. Do a deal for kicks and get rich quick. Sketch lyric, bet you bought a nick on some Vic. Ick from the drumstick, come with the dumb stick. Sick, slick, hidden in a book. The only way they find it if it's spitting in a hook. Listen, don't look now, keep walking. Traded three beans for this cow. Cheap talking, Hawkman, stalking here to we hawking often. Coughing to a coffin, might as well scoff the pork then. He's like Wolf. Some say stronger though, off the top J Strongbow, play along bro. Wear a mask like yo off the gong show. Flow slow as Mongo, Don Juan Thong Pro. For your info, when he's not practicing Jim Crow, an actress in some nympho bimbo. He's playing Ray J, the old tape. Doing well, what can I say, like JJ in a gold cape. Fill it to the rim like Brim. Villain and you won't find him in no gym. Probably a foggy bog with the frogs with a dot on a guard as he squat on a log. Half cocked and half baked. Used to keep a full stock of work, half rocked and half shaped. My mistake, sign a track agreement for more G's than lines and cracks in the cement. In any event, it's fake like wrestling. Get him like Jake the Snake on mescalines. Elixir for the dry throat, tried to hit the high note. Villain since a itsy bitsy zygote. By remote, sending the meat wagon. Bragging MCs packed in with their feet dragging. These stats are staggering. Had his PhD in indiscreet street haggling. Villain, his agenda is clear. Ending this year with dividends to spare here. It's not meant for the seeing. Went through the ceiling after entering his center being. A new meaning to sales through the roof. Guaranteed raw and source truth is truth proof. It's the return of the tramp. We'll do a duet jam when Ernest goes to camp for the right urn. Nah, I mean like burn. We need some more oil for the machines to burn. Learn. Jiminy Crickets, he gets lucky like winning free tickets off sickly lyrics. One man's waste is another man's soap. Son's fan base know the brother man's dope. A real weirdo with a bug rare flow. And the way his hair grow was ugly as a scarecrow. He was a mask so the charge won't grab. On a rooftop with a large stone slab. Heads up, talk white and thought niggerish. Refused to walk tight and got his off the vigorous. Black licorice and equally as yucky. How he handled the money was strictly damn Stucky. Monkey hustle, man on fire. Later for the date than the Hadron Collider. It costs more, it be seeming like a style. Doom leave the competition steaming like a pile. Smile, sparkling jewels. In effect like alternate side of the street parking rules. Fools, the roach was never dead. Live for a week, then dehydrate with a severed head instead. It was depicted as flicked, split the wicks lit. Instead of drunk, barely spoke, barely smoked. Scared at folks who properly provoked, mirror broke. Hair share, strawberry morning, gone and more important, spawning. Torn in, poor men sworn in. Cornish hens, switching positions, auditioning morticians. Sword in a vision, ignoring prison. Ignoramus is enlisting, sound dumb. Found them, drowned in cow's dung, crowns flung. Rings a tinkerbell, sing for things as frail as a fingernail. Bring a scale, stale ginger lingers. Seven figures in vigor, nigga, fresh from out the jail. Alpha male, sickest ninja injury this century. Enter plea, lend sympathy to limper, simple Simon Ramen MCs. Trees is free, please leave a key. These meager fleas, he's the breeze and she's the bee's knees for she's. G's of G's, seize property, shopper sprees. Chop the cheese, drop the grease to stop diseases. Gee whiz, pa. Doom rock grandma like the Kumbaya. Mama was a hole hopper, papa was a Rolling Stone star like Obama. Pull a car like old drama. Civil liberties, these little titties, abilities riddle me. Middle C. Give an MC a rectal hysterectomy. Lecture on removal of the bowels, foul technically. Don't expect to see the recipe until we receive the check as well as the collection fee. More wrecked in Section Z, what you expect to get for free? Shit for me, history. The key, plucked it off the mayor. Chucked it in the old tar pit off La Brea, player. They say he's gone too far. Duma, catch him after Juma on cue. Laka! Do what you gotta do. Grah, the rumors are not true. Got you, ma. No prob, got the job. Hot bard, heartthrob. Scots guard the barber, cotton swab, dart lob. Baker, cake sweet. Jamaica trading treats on the beach. Make a skeet till the feet's meet. Can it be I stayed away too long? Did you miss these rhymes when I was gone? As you listen to these crazy tracks, check them stats, then you know where I'm at. And that's that. Look, there's Doom now. I followed him to the studio, but I was too late to stop him. That's right! You'll never stop me! You're dead! You're both dead! Hey, yo, that's that! Questa è, salutiamo anche DJ Libero che sul suo profilo Instagram ha deciso di fare un omaggio a MF Doom proprio sul beat di Death Death, screcciandolo da matti. Quindi vi consigliamo di fare un salto sulla pagina Instagram di DJ Libero per sentirlo, e appunto vi consigliamo anche di fare un salto sulla nostra pagina Instagram, perché noi prima eravamo presenti solo su Facebook, da qualche tempo siamo anche su Instagram, quindi pubblichiamo a cadenza regolare e come ogni buon Instagrammer mettiamo il nostro link, il link della trasmissione in bio. Ora passiamo veramente a un episodio molto piccolo e molto poco conosciuto, la collaborazione Doom Starks, cioè MF Doom e Tony Stark. Chi è Tony Stark? È un altro aka del nostro buon Iron Man, aka Ghostface Killah, di cui parlavamo prima. È un EP che si intitola Victory Laps, che probabilmente ha solo questa traccia e poi il remix di Madlib, che appunto sancisce la collaborazione tra due grandi liricisti. Victory Laps. Off the straps at the victory laps. Four homicidal maniac, rap run runners. Kingpin numbers to kick, knee slap scat. Throttle loose, villain on the track in your town like Ringling Brothers. Bring rings around clowns. Got them bowing down and surround sound. Drown. Pawn something for a small fortune. Go broke, sell portion to an auction. Caution, name your prices that times four score. Of course, no love lost. Enter the town on tour, they force course more. Give or take the off day, short stay. In case the Gordy shorty need the horse. Play raw hay, breaking in the dough, no connection. Came home lame, spitting, still paying protection. Feeling no kidding when he ain't rhyme checking. Or in the sunshine with a fine dime necking. He lighting up the Olympic torch with sparks glow. A gift God scores hope, pass it off and stalks grow. Bringing it home, it's the relay laps. Twist cats, put them on they ass. The other half on they neck and they back. Prepare your best for the victory laps. Take titles and give them back. World Series hummus. veteran numbers, still spit that crack. Bottles of Goose in the backpack. Niggas talking like dear Tony Starks, don't you dare let us down. Your hits be immaculate and accurate, like the targets of Jay Plummer. Started all that talk of being a gunner. Beef in the winter leads to death in the summer. Switzerland and Frank's army tanks. Fuck a bodyguard, it's me in the iron. I'm secure like federal banks. Pirates, y'all niggas better walk the plank, motherfucker. Blucker, blucker, compliments of the gentleman in all black. In the back, softball stack off the wall plaque. Fall slack, tracking this is tricky. Hope to fix the problem with the rack opinion doohickey. Not too quickly, it's softer than a gooch. As I proceed to pop the clutch like a cooch, boosh. It broke loose, scratched the side sliding. Disappeared off the horizon, gliding. You're now riding with the rude gin and ginseng drinking. Sing a sting song smooth as mink skin. Drop a jeweler, keep the kingsmen stinking. Filthy metal fingers leave the ink pen stinking. Move, collab is in a mess. Reeking, speaking from the heart like a stabbing in the chest. Leaking in a cab in distress. Blinking, home, poems ringing in his dome. Clinging to chromosomes. Ah yeah, questo era Doom Starks, un preludio a una collaborazione, come appunto dichiarò il buon Ghostface Killah nel 2013. Appunto Ghostface Killah disse che stavano scegliendo le tracce per l'album. Nel 2015 appunto venne annunciato che l'album sarebbe stato pubblicato nel 2016. L'album si doveva intitolare Swift and Changeable, ma è rimasto non pubblicato, quindi è rimasto un inedito. Cosa succede dopo questo album? Succede una grande svolta nella vita di MF Doom, perché appunto la sua etichetta discografica, Lex Records, in collaborazione con Sonar, presentò il primo concerto di MF Doom a Londra, a Camden, al Roundhouse. Cosa è successo? Che c'è stato questo appunto tour europeo della Madonna, e poi MF Doom è tornato negli Stati Uniti, dove viveva, solo che lui era nato a Londra e non aveva mai acquisito la cittadinanza americana. Che cosa è successo? Che gli hanno rifiutato l'ingresso negli States e non l'hanno mai più accettato lì, quindi è tornato indietro negli Stati Uniti, in Inghilterra, e ha cominciato a lavorare a un nuovo album sempre con appunto Lex Records e con le produzioni di Gennaro Jarrell sotto lo pseudonimo di JJ Doom, che poi appunto è il duo, un altro album collaborativo che ha dato vita a l'album uscito nell'estate del 2012, che si intitolava Key to the Cuff. Gennaro Jarrell però è americano, quindi ha prodotto nel suo studio a New Orleans in Louisiana, e appunto si conoscevano già con Doom, si erano già incontrati varie volte. E praticamente mentre MF Doom, non potendo entrare negli Stati Uniti, registrò tutto quanto da Londra tra il 2010 e il 2012. Quindi questa è la storia particolare di questo album, che è rimasto appunto un po' sotto traccia, però è molto interessante sia per sonorità che per liriche. Vi mandiamo due canzoni che abbiamo scelto. Una si chiama Rhyming Slang e l'altra Governor. Catch a throat full from the fire vocal with ash and molten glass like I am Jala Yoko. The volcano out of Iceland, he'll conquer and destroy the rap world like the white man. Learned from a pro as a mentor, started with a bird nest and burnt it to a cinder. Gotta get the party kicking, plus your little charred body smelted like chicken. As the dollar continues to lose momentum, he need land for murder Indians and represent them. Gold is up, urging all thugs, trading y'all chains for cash and splurge it on drugs. A more secure investment, food and water, a couple of gallons for your cutest daughter. And thank him as a Yankee fellow southerner. Don't forget the general rank, hello governor. Hello governor. Hello, governor. Vocals spill over like the rolling hills of Dover or the Gulf oil disaster, if preferred you're after. Depends on your status or your stature, whether you benefit from the prior or the latter. Get the fatter check split, and how much for 100,000 tons of correct sit? Sell a Chinese half-price seafood. Prices like a real nice street dude. Who can knock the most dead birds out the sky and then spread a lie and say you know why? Bet. Get the machine. Blame it on the fireworks. Clean up. Y'all know where to send the wire jerks. Black teeth still snack on sweets and get stacks with the creep on creep. They used to sell CDs. Now they got fake weed. Seeds burning trees is potpourri. Buyer beware. Had to tell us one liar, sire, be fair. At least I'll tie your hair from the chair while I'm here. I hate play loving her. JJ for governor. Copping pains at night. You're better off going bar hopping, waiting to fight right. Nobody wanna get tapped by the gauntlet. If you got it, flaunt it. They say rap is haunted by the living dead. Rip them to shreds, give them the bread. Ralph sipping the red blend. Chipping the head, MCs is bought and sold. Their rhymes ain't worth the weight it costs to go hold. It's like a thin chain from here to Brisbane. Y'all should not rinse his name in vain. Rep the insane, gotta do it. Snotty future, true grit. Game to spew, spit like bodily fluid with mucus. Cruise is useless, act like you knew it. Either that or get cold smack like blew it, chew it. Rules is rules, backed right into it. Ghouls is fools, that's too crack for school, prove it. All the way to UK to BK, hit the echo of the bang and the cockney rhyme and slang. Hurricane ripping through your terrain, hit the echo of the bang and the cockney rhyme and slang. No guts, no glory, what's your story? Bore me poorly, saucy, awfully enough for coffee. Rarely, scarcely, scary, glary, stare. Let's be very clear, MC's is derriere. As well as aware, warily, just don't be nearly near, you hear me? Yeah. Slow flow, speed beats, see what's on his beats. From your nosebleed seats. Dooming ton son, once all the shrooming's done. Leaves the room with the grooms, unassuming, blooming none. Lady friend, solid train, Israeli Berrykin. Hair radiant, wavy baby skin. He stayed pimping, Rocky Diamond ring. Uncle Joe, grandson, cockney rhyming slang. Crazy grin. Flows is handsome, cockney rhyming slang. All the way to UK to BK, hit the echo of the bang and the cockney rhyming slang. Hurricane with the pool up your terrain. Diggle your anthem, cockney rhyming slang. All the way to UK to BK, hit the echo of the bang and the cockney rhyming slang. Hurricane with the pool up your terrain, hit the echo of the bang and the cockney rhyming slang. Eyo, e questo era JJ Doom. Vi consigliamo di vedere anche il video di Governor, anche perché prima di tutto MF Doom non ne ha fatti tantissimi di video. Questo era particolarmente bello perché praticamente lo schermo si divide a metà, lui semplicemente è in un parcheggio sotterraneo e rappa con la sua solita maschera. Cosa succede? Che praticamente l'immagine si divide a metà e sono come se fossero due foto che vengono attaccate l'una all'altra e praticamente ce n'è una metà magari lui è fermo, nell'altra sta camminando, però sono incollate perfettamente, quindi una roba originale al solito. Passiamo a un altro album collaborativo, sostanzialmente gli ultimi album di MF Doom dopo Born Like This sono stati tutti collaborativi con diversi artisti. Passiamo a Neruvian Doom, che appunto sulla copertina mostrava appunto MF Doom e il rapper con cui collabora in quest'album, che è Bishop Neru, in un'ambientazione quasi peruviana antica, robe matte, mentre invece non abbiamo detto che su Born Like This c'era praticamente una raffigurazione della maschera di MF Doom come se fosse un antico reperto tipo la maschera del gladiatore, molto bello. E allora praticamente è un album che è stato appunto pubblicato incredibilmente sotto l'Ex Records, quindi sotto la stessa casa discografica di prima, nel 2014. Praticamente quest'album è prodotto da MF Doom, quindi a livello di beat, ma ci rappa Bishop Neru, quindi sostanzialmente sono beat che sono stati poi utilizzati anche nelle compilation Special Herbs, che sono un altro grande classico di MF Doom, tutte strumentali, ed è anche stato il debutto discografico di Bishop Nehru, che all'epoca era anche giovanissimo, quindi diciamo è un esperimento interessante. Vi abbiamo come dire selezionato una traccia che vi mandiamo adesso, che si intitola Darkness. In the darkness, cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm finally seeing things from a clearer view. You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? This life is like a mystery. Look how the world sent to me. Today I'm in the industry. Next, I'm ending history. Physically won't allow it. My mental is not a coward. Still thoughts are devoured. Worry about him. Now's the hour. Getting showered and it's bad news. Bombings and cap schools. Knee capsule for my brain strain. That's the pad's root. I express the stress that infests my chest. It's best. The next step is a rope, is necklace. That's suicide aside. I got pride in mind. And a pretty bright future. Guess it's time to grind. My shine getting impressive. Though I'm still selective with who I let. Give me hard time than who I let live. This world is full of mischief. And bodies trying slick tricks. Moving thick bricks is not the only way to get rich. You gotta learn to think or you'll fail. Then there goes another statistic, dead or in jail. Let's prevail. How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm finally seeing things from a clearer view. You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Cruel world, all I'm seeing is darkness. Simply an old soul, villain illy, killing with these flows. Know I can blow, imposing, you're gonna get disposed. Expose those who pose, living hopeless, no hope for those jokes. Still I try to hold, they know so. Sorrow won't drown them, crowds will never clown them. A lot of these laws open jaws when you're brown skin, the cat to your chest and your complex is honest, your conscience said the guy following you was lost. It your aunt just got 20 years, it ain't fair cause she pulled a gun out but she shot it in the air. Let's prepare for all sorts of courses life offers. Think before you walk this land of cold forces. They want us on porches and want us to forfeit. Luckily we ignored it and still found all of this wonderful life and light too. I got a clear view, but how about you? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? How about you? You? How about you? You? I'm finally seeing things from a clearer view. You? How about you? You? How about you? You? I'm seeing things clear now. How about you? You? E io, questo era Darkness, Nehruvian Doom, e continuiamo con queste collaborazioni, micro album sostanzialmente di MF Doom. Vabbè, diciamo Nehruvian Doom è un album vero e proprio, anche se breve. E ora passiamo proprio a due micro EP che però sono stati abbastanza significanti. Uno è appunto West Side Gun ed MF Doom che hanno collaborato e hanno formato West Side Doom, quindi su uno sfondo rosso si vede il bel faccino di MF Doom con i suoi denti d'oro con la maschera di MF Doom, quindi mi sento in dovere di dire che Doom ha collaborato con Mr. Doom per questo EP composto da ben due tracce. Però come nella migliore tradizione dei singoli, giustamente c'è anche la strumentale da cappella di ogni traccia, quindi si arriva a 6, e quindi abbiamo scelto questa e poi un'altra collaborazione mica da ridere con niente poco di meno che DJ Mags, una traccia che si intitola Assassination Day, che vede duettare sulla traccia niente poco di meno che MF Doom e Kool G Rap, quindi ve le mandiamo in coppia: Gorilla Monsoon featuring Westside Gunn e Assassination Day prodotta da DJ Mags featuring Kool G Rap. My cell, I click my heels 3 times. Pink just tools, my khaki suit, mastermind, water whip. Toss the coke in the active line, platinum and gold. Rhyme English hat to the side, immaculate rhyme. It's so obvious, watching the world from up top. Snakeskin binoculars, red companions. Cause X is on the suede mansion. My bedroom had a bedroom, my wrist be dancing. Be dancing, the flyers that's living. We living down by the kitchen, chopping no dishes, wrapped in puffy ambition. We hopped over fences, banana yellow fiscus. Push and crack like we invented it. Jeff Cool, Louis Rubin, Duffel got 10 in it. Kobe Jordan, Pac, we was kicking it. Antisocial, social club with the snub, yo. Like the trees dumped into some dust blunt fusion. An old cocktail of mine, chemicals derail time. It's all good as long as he ain't inhaling swine. Dare to climb, scared money makes none. Take one, be sure to flush before the jakes come. Old shark, specialty is flow art. Smart, but going circles like a go-kart. Yeah, don't start, make him have to finish. Just bounce like gold diggers. Once the dough diminish, phony, it gets lonely at the finish. Yo. You see, some deal dope, others steal hope. What's revealed is of a certain feel, grope. Yellow moist mushy, banana peel coke. At worst, could not be confused with real soap. Nope, you see, disaster is intended. In the face of truth, don't ever be offended. Overstand the past to get a grasp of the present. I make it faster than you spend it. End it. Pure hate like spit going over Ramo. A good response would be to wave high like Mano. Or it could be whatever dog bingo was his name, oh. A rainbow in his go to hell game show. It's like a pause, hey yo, you know how the slang go. Bango, devil wanna tango. Gets insane dough, trick on any Jane Doe ho. Viano, insensato's flow. Off the screen, laying low, Lovato, playing slow. In fact, playing so slow, faster than light speed. Indeed, Nick Jr. on you, puffing bleed at night, skied in the wee hours. Deep study in the mix. Open up them doors, have them shitting bricks. Ineffective verse, big box, little pricks. Pause again, fiddlesticks. Teeny white pill within the Skittle mix villain. Back in the days, waiting to get a cake and a biscuit. Found out a way to the wizard, making it blizzard. Pick up the pace in my skip and paid him a visit. He took me straight where the fish is weighted and distant. I threw some flake and some liquid, making it rigid. Stayed in the kitchen, baking and whipping, apron and mittens. Raisins and pitchers, tape with some scissors, scraping the dishes. Played with some riches, laid with some bitches, Stacy and Bridget. Faced with a dick and stayed in they face like braces and bridges. Braids on my britches, latest Mercedes racing on bridges. Places exquisite, safe for the digits, safe in the district. My paper straight was making a difference, steak with some brisket. Jacuzzi tub the bay with my mistress, shape on the bitches. See niggas pay them living, go grab the shades and the fitted. Raise on them midgets, raise up the cage and get with it. Niggas know I don't play with this shiz, it flavor delivered, nigga. Ehi, oh, e questo era Assassination Day. Su questo beat cupo e oscuro si muovevano i nostri. E ora arriviamo al 2018, un altro album collaborativo con un altro colosso di questi anni 10 sostanzialmente, da 2013 in poi, perché parliamo della collaborazione di MF Doom con Czarface. Perché per chi non lo conosce, per chi non li conoscesse, sono 7L Esoteric ed Esoteric, che erano già un duo, uniti a Inspecta Deck dei Wu-Tang Clan, che hanno fatto una milionata di album in questi anni, e probabilmente, molto probabilmente, dovremo fare una puntata dedicata anche a loro, anche perché anche loro hanno un po' la fissa dei fumetti, anche loro fanno le cover fumettistiche e hanno ideato questo Czarface, che è un po' il loro supereroe, diciamo. Quindi si univa bene. È stato pubblicato ovviamente da un'altra casa discografica, Get On Down, una casa discografica di Boston. Nell'album ci sono insomma varie anche collaborazioni con Vinnie Paz, Open Mike Eagle, Black Astan e Kendra Morris. Quindi sostanzialmente avevano già fatto una piccola collaborazione su Every Hero Needs a Villain e poi su First Weapon Drawn. E poi praticamente insomma questo è il loro vero album collaborativo. Abbiamo scelto due tracce, Metal with Metal e Bomb Thrown. Yeah. Bombageddon, hardhead descendants, jarhead in the trenches, scarheads relentless, UK reformers, locksmiths and fools. Czar, what's your occupation? Anytime I'm spitting, the floor rock, the spell so strong I catch hate from wizards and warlocks. Boom bap ambassador, track master, hot as Africa sand, moving bodies like a human trafficker. What I'm stomping to, harder than an inmate on a conjugal, launching you with rocket fuel, live at the barbecue. Rebel lion, that's my body spark for you, and I ain't even digging to my arsenal. Don't take it personal, you know the biz and you notice his thoughts. So much force, I'm like Yoda's twin. Fire, I break the sweat in the coldest wind. I'm bad news, they gon' notify your closest kin. Czar, Czar, Czar, Czar, Czar, Czar. Who the fuck is this? Look at super villain, a maniacal tyrant. Hear footsteps, adapt to your environment. Jungle, all you suckers with the rap jargon. Type of rap you find on a rack at a bargain. Type of crap probably getting smacked off the margin. When it's read, 782 Knicks at the Garden. New York, this ain't no new talk, true talk. TMZ and fake beef is the new pork. Filthy, regurgitate. Tape them up, lay them down, increase the murder rate. Nah, not that dude, I heard it straight. Whack rappers get spit on through the pearly gates. final straw, asking what they're rhyming for. Death waits right behind the door like a dinosaur on a line of roar, trying to find a cure. Doom. Shit show from the get-go. Every hero needs a villain. Weave a web like Steve Ditko. They get though, they thirsty. Words a big lick low, they tiptoe. Minions round a giant with the sick flow. No, no, I wouldn't provoke them. They call him Conor McGregor. The way he's fucking outspoken and trial. By combat, let's do 10 paces. Cesspool of races, Deadpool their faces. Death doom and Seamus, rec rooms and stages. You gamble with your health, med schools of Vegas. I miss that old shit. Rappers used to be stupid deaf. Now they just stupid and deaf. I stay around red like twisty ties. Look up in the sky. Czarface, stick the superhero in an extra fly. Extra fly. My mind scattered, but the bars rule. So many voices in my head that every ride's a carpool. It up like Kane in his prime. Fuck with us, you insane in the mind. You cowards way out of line. Money talk, boy, you wasting my time. You don't wanna put the work in, you just wanna taste of the shine. Real talk, so it's hard to trust. I'm in it for the long ride, like I drive a chartered bus. Scars and blood from the deadly bars I bust. And Czar we trust, the army body bombs off us. Blog about it, naysayer, you can hardly doubt it. Who's the best, who's the worst, we can argue hours. Running through Soldier Field, I'm Jordan Howard. Nowadays they respect money more than power. Money, power, respect, we all want some. I ain't waiting, I need it in one lump sum. Made man trade hands with young guns. They stop manufacturing the cloth that I'm cut from. I be laughing at the beef as though I'm body shaming exes. Only time you said trip is when you binge on Netflix. Reckless, running up like yes, so listen please. Alright, I like the beat except the snare kicking keys. Jeez, I teach but I kill them when the class on. So I got no pupils like Spidey with the mask on. Generally speaking, each rhyme is 5-star. Split personality, I ride with a sidecar. I can't think of the rhyme, it must be misplaced. It's on the tip of my tongue like Stan Smith's face. Hold on. Something about a fly sound and how you got no bars like a dry town, so pipe down. The beat bumps like bad skin. Captain gonna teach stuff. Shout to Craig, man, that's the line, yo. Let the mind take you where the cameras can't. It's very necessary, like a Q-tip Grammy rant. Doom was eminent. Jet lag, good afternoon, or is that night? Militants speak proper, some airheads say they act white. Caps flight, bread good, so he tends to pack light. Got jokes, but usually don't engage in no snap fight. Could be considered a waste confronting snakes on the back bite. Detrimental to culture that they like sight. Ass wipe, catch him on stage, mad hype, with a trash mic. Month later in the gutter, glass pipe and a flashlight. Looking around for something, he's still scurrying. Bewildered, incite riots, and minds going blurry. It wasn't really shit to say, much to their chagrin or dismay. The licks had him on the ropes, then he made a big mistake and hit the hay. Went home and hit the day. Burned the midnight oil and flipped the shit a different way. Disaster, time is a component. Setting fire to rappers in a monumental moment. And the game's potent, it's like a never-ending quotient. A minute ago, it was smiles and hugs, now where the fuck the dough went? He's so bent, it's like he set the shit straight again. Bombs from the drop and he ain't even close to saying when. Villain. Nothing ever stolen. What's given is a blessing, think the universe owe him. Got faith in the vessel, but knowing to keep rowing. Yeah, and get about your own way with delivering the poem. Those who think they do, don't know them. No different than a squad of birds ready to blow them. Sorry, Charlie, get back up on your Harley. Win, lose, or draw, plus beat you at Atari. Drop the ass deep in some far-off safari. And probably even got the answer to who the hell are we? Metal face squadron, tell a real one shalom. In a calm tone, bomb tone. Questo album appunto è un'altra mina che vi consigliamo di ascoltare. La particolarità è che questo, arriviamo un po' al momento triste della nostra storia, è stato l'ultimo album pubblicato da MF Doom, perlomeno in vita, diciamo. Poi è uscito un singolo, The Chocolate Conquistadors, ma già ormai in realtà MF Doom era scomparso. Conoscendo la sua iperproduttività, insomma, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, continuerà a uscire materiale perché, insomma, non stava mai fermo e aveva tante cose in ballo. Arriviamo appunto al momento triste, che tra l'altro è un momento triste che si compone di varie misure, perché sostanzialmente da quando è stato negato il rientro negli Stati Uniti, appunto MF Doom ha vissuto a Londra, ma la sua famiglia viveva a New York, quindi per un paio d'anni non sono riusciti proprio a vedersi, tranne che con la videotelefonata sostanzialmente. Poi insomma nel 2012 sua moglie e i suoi figli sono arrivati a Londra. Una delle ultime appunto post pubblici che aveva fatto MF Doom, che preferiva parlare con la musica, del dicembre 2017, in cui lui annunciava che il suo primogenito era scomparso e aveva solo 14 anni. A quanto pare questo dolore, insomma, non abbandonò mai, ma del resto come potrebbe essere il contrario. MF Doom, che appunto praticamente scomparì dalle scene dopo appunto la collaborazione con Czarface, sì, è uscito qualche altro singolo, ma insomma sono uscite più che altro ristampe. E poi praticamente nell'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre del 2020, quando in Italia erano gli ultimi minuti prima della mezzanotte, è cominciato a circolare tramite i social la notizia della morte di MF Doom. Praticamente girava questo post redatto dalla moglie, in cui non si specificava altro. Appunto, per noi erano gli ultimi minuti della giornata e dell'anno, in realtà negli Stati Uniti erano insomma le 3 del pomeriggio, le 4 del pomeriggio, così, quindi erano ancora metà giornata, e ovviamente i social sono impazziti perché MF Doom aveva una grande fama anche al di fuori dell'ambito del rap, perché appunto era anche molto amico del leader dei Radiohead, con cui insomma avevano anche fatto diverse collaborazioni non hip hop, aveva insomma una grande fama, e Questa notizia ha un po' scosso tutto il mondo dei social e della musica. La cosa che tra l'altro ancora più particolare è che in realtà MF Doom non è morto il 31 dicembre, ma è morto il 31 di ottobre del 2020, e la sua scomparsa è stata resa nota 2 mesi esatti dopo, e non si sa nient'altro, cioè non si sa il motivo, non si sanno le cause, non è stato annunciato nulla. E appunto è arrivata un po' come una doccia fredda questa notizia, che appunto uno dei più grandi artisti dell'hip hop è scomparso proprio così, in silenzio, un po' in punta di piedi, così come era apparso è scomparso letteralmente. Però diciamo faceva parte un po' anche del personaggio e probabilmente della persona, probabilmente, quindi una cosa effettivamente in linea con quello che era, e probabilmente è stato scelto anche dalla famiglia di insomma avere riservatezza nei giorni appunto successivi al decesso, per poi dirlo pubblicamente più avanti. Quindi diciamo questa è un po' la storia di MF Doom. Noi abbiamo voluto appunto dedicargli la prima puntata del 2021 proprio perché ha lasciato un grande vuoto, e perché appunto è difficilissimo, anzi impossibile, che ci sia un altro artista come lui, proprio un vero e proprio artista hip hop originale, sempre diverso, sempre originale e mai scontato. Quindi abbiamo scelto come traccia di chiusura, noi normalmente scegliamo un pezzo italiano, ma per un artista così difficilmente catalogabile abbiamo scelto una collaborazione fuori dall'ordinario. Su Demon Days dei Gorillaz appunto c'era questa bellissima collaborazione che si intitola November Has Come. Slow it down some, no split clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them. Where you found them at, got around town, could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hip through the scrawl, none more for me, thanks. That blank's the roar, that dank sure stank lit. Sank past the pit for more hardcore prank spit. Crank it on blast, roll past Front Street. Blew the whole spot like some old ass with skunk meat. These kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get looser off a crunk or a funk beat? Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come and it's gone. A spigot. My guess is yes you can, like can I kick it wicked. Lick a shot if you happy and you know it, as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Grope a pen and I'm in Cole Hyman, dope or rhyming, more worth it than the whole diamond. Acquired off the black market, a wire tapping couldn't target, a jar spit, the rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking him for closure. Send him a gun and tell him clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled-in thong of Billabong and said, nah, for real, I'm a villain, I'm a gorilla, John. Something is starting today. Where did he go? Why you want it to be where you know November has come? Today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come? Hey, oh, e questa era un assaggio letteralmente della discografia di MF Doom. Questa era la puntata dedicata a MF Doom, che appunto purtroppo è scomparso, ma la sua musica vivrà per sempre, quindi vi consigliamo di ascoltarlo anche se non siete magari dei super fan dell'hip hop, perché effettivamente aveva una ecletticità e una versatilità tali da poter piacere insomma un po' a tanti altri proprio per la sua raffinatezza. Siamo al momento dell'aneddoto, un po' il momento preferito del nostro amico Sapo Gulli, che salutiamo. Diciamo, abbiamo raccontato vari aneddoti insomma insoliti. Bisogna dire, non è stata una carriera e un'esistenza banale quella di MF Doom. Sicuramente quella più divertente era quella che mi raccontava Gigi prima, che sostanzialmente MF Doom aveva vari sosia, del resto non è difficile, bastava andare in giro mascherati, che rappavano contemporaneamente in più stati diversi. Una volta, tra l'altro, a un live prima di un concerto di MF Doom si è presentato un impostore con mascherato, che appunto rappava, però le persone dalla voce hanno capito che non era MF Doom. Poi è salito il vero MF Doom, che ha mandato a stendere letteralmente il truffatore, che è stato presumibilmente subissato di fischi dalla folla. Ovviamente non possono mancare anche gli annunci. Ci sono due robe importanti, poi correggimi Gigi se sono di più. Ovviamente, come al solito, parliamo di comunità resistenti e parliamo quindi del fatto che oggi c'è stato un presidio sotto il comune di Milano, perché alcuni spazi sociali di Milano sono sotto sgombero, che poi è un po' un paradosso, perché effettivamente gli spazi sociali si sono attivati più che mai durante l'emergenza Covid, che continua a perdurare, per portare aiuti e solidarietà e insomma tutto quello che può essere necessario, che potrebbero fare insomma dei comuni cittadini, sostanzialmente colmando il vuoto che ha lasciato lo Stato, che insomma è stato piuttosto lento se non assente in certi casi. Quindi a loro va tutta la nostra solidarietà, a loro intendiamo le comunità resistenti, quindi alle comunità resistenti di Milano va tutta la nostra solidarietà. Un'altra iniziativa sempre per parlare di comunità resistenti e di cose belle a Milano Sud, è il progetto Inside the Beat, Outside the Box di 232 Apps, di cui fanno parte insomma tantissimi amici, tra cui Otis, Cesa, di cui credo faccia parte anche Siddi, perché insomma fare dirette con loro, i live li fa anche i loro live esterni li fa anche il mio buon amico DJ Radio Rahim. Praticamente è partito questo crowdfunding che trovate su Produzioni dal Basso, e sostanzialmente è una raccolta fondi, l'obiettivo è arrivare a 12.000 euro e praticamente pare che siano già 6.000, quindi già il 50%, raccolti appunto tramite l'ausilio delle persone che possono anche scegliere un premio, possono scegliere il CD di Rap Caverna Post, possono scegliere i gadget di 232, insomma ci sono tante cose, c'era anche il poster di Noiz Narcos, presto arriveranno altri gadget tipo di Gali, insomma di altri rapper famosi, c'è anche il test pressing e la ristampa di 8 di Bassi, quindi insomma sono tante cose che appunto si potrebbe scegliere di avere in cambio della propria donazione, oppure si può fare tranquillamente una donazione spontanea. Che cosa succede? Che al raggiungimento dei 12.000 euro prefissati il comune di Milano raddoppia o quasi la cifra, arriva a 1,5 e ne dona 18.000, quindi 18 più 12 fa 30 e si otterrebbe un budget di 30.000 euro per andare a realizzare degli spettacoli teatrali, dei laboratori pop, un grande concerto alla Bowl di Grattosoglio in collaborazione con Jack the Smoker, quindi tantissime cose che verranno a Grattosoglio, quindi a Sud Milano, per appunto dare accesso libero e gratuito ai ragazzi del quartiere a cose che diciamo normalmente non sarebbero presenti ecco sul territorio, e appunto insomma offrire anche una visione sul mondo dell'arte e del teatro, che insomma è una bellissima iniziativa che vi appunto chiediamo di sostenere. E bom, io so questi eventi, c'è altro Gigi? No, credo di no. Bon, quindi noi siamo arrivati in chiusura, la prossima puntata di Underground Pusher, se non ci sono altri slittamenti vari, DPCM vari, sarà tra due settimane, la facciamo su Schoolboy Q, settimana prossima venerdì invece ci sarà una nuova puntata di Up Talk, intervisteremo La Vale, a.k.a. Voodoo V, anzi Voodoo V, a.k.a. La Vale, per la precisione. Quindi vi salutiamo. Il beat non ha prezzo, è già in canna. E niente, seguiteci sui nostri canali social. Yo, alla bene, prossima. Amica, ciao. Porca, che è un sorriso, il mio bambino non ha prezzo.